si può fare. L'attualità, anche d'estate, di Alessio Maurizi. 18 e 7 minuti, buonasera, buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare fino alle 20:30, anche questa sera insieme a voi con i vostri interventi all'800 24 00 24, un'altra settimana insieme, l'attualità, i commenti e qualche buona notizia per digerire meglio le notizie dell'attualità. E come non ripartire dalla frase di Di Battista, Movimento 5 Stelle: se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato, non mi resta che caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. E voi cosa ne pensate, cari ascoltatori? 800 24 00 24. Una mattina giunge l'eco delle bombe, l'adrenalina in corpo con la rabbia che mi spinge a protestare, far saltare tutto in aria. Mi è arrivata la notizia, è una guerra umanitaria. È questione di Battista che ha parlato del terrorismo come unica arma per ribellarsi. A voi cosa ne pensate? Che è un puerete. Chi parla di terrorismo e di farsi esplodere in metropolitana è un deficiente. Se poi viene da un movimento come il Movimento 5 Stelle, che ha cancellato il reato di immigrazione clandestina, grazie al quale stanno sbarcando migliaia e migliaia di persone, se qualcuno inneggia il terrorismo in metropolitana, mi fa schifo e mi fa paura. Arrivano ancora una volta dichiarazioni inaccettabili. Dare copertura morale al terrorismo internazionale, confondere vittime e carnefici in questa nuova tragedia irachena è non solo grave, ma è anche pericoloso. Nell'ordine le voci di Salvini e di Simona Bonafede del PD, tutti contro Di Battista, dunque, a parte Marco Pannella, che ha detto è gandiano, perché in questa frase Di Battista dice la prima cosa da fare è una risposta pacifista, però se questo non si può fare, allora il terrorista fa bene a caricarsi di esplosivo e farsi saltare in aria. Una frase che devo dire che nella sua banalità è quasi, nella sua diciamo semplicità, è quasi banale. Parlando con molte persone ho sentito dire: ma sì, in effetti cosa c'è di strano? È la politica che si indigna per una frase del genere, però come credere ancora alle guerre che sono state fatte, alla politica, agli americani che si creano un nemico, lo combattono, lo ha detto anche Hillary Clinton, l'ISIS l'abbiamo creato noi in Siria perché dovevamo buttare giù Bashar al-Assad, adesso vogliono fare il califfato in Iraq, e questa è sicuramente una follia, però adesso l'alleato di prima diventa il nemico. Frasi queste di Di Battista che parlando con molte persone ho sentito, come dire, considerare quasi ovvie, quasi banali. Il terrorista si arma con quello che può e fa la guerra contro l'America, che va, bombarda, fa l'embargo, tira giù Saddam Hussein, fa un governo fantoccio come quello di al-Maliki, e poi finisce come sta finendo adesso con nuovi bombardamenti. 800 24 00 24. Ma c'è anche ancora la questione immigrati. L'Italia si è dimostrata ancora una volta campione del mondo di accoglienza. Dobbiamo essere orgogliosi di avere salvato le oltre 70.000 vite umane dall'ottobre scorso, dall'avvio dell'operazione Mare Nostrum. E la nostra linea rimane la stessa: accogliere le donne, i bambini, quelli che rischiano la morte, la persecuzione nella loro casa di origine, nel loro paese di origine, e al tempo stesso rispettare tutte le leggi che prevedono il contrasto alla immigrazione illegale. Ieri il ministro dell'Interno, che si dice di centrodestra, si è detto orgoglioso perché l'Italia è campione del mondo di accoglienza. Secondo me è campione del mondo di coglioneria, non di accoglienza, perché non ce n'è più, non ne abbiamo più. Su un'altra questione di cui pure abbiamo parlato molto nei giorni scorsi, chiamatela una polemica agostana, quella dei bronzi di Riace, il ministro dei beni culturali Franceschini adesso apre alla proposta di Sgarbi di portarli a Milano per l'Expo, anche se qualcuno ha detto portiamone solo uno anziché tutti e due, facciamo una copia. Ha aperto a questa possibilità e ha detto che vuole nominare una commissione per decidere se questa cosa si può fare oppure no. Probabilmente una commissione tecnica, una commissione che deve valutare la possibilità di trasportare fisicamente questi bronzi di Riace, una commissione, un fatto questo che deve deciderlo il ministro Franceschini, che adesso sembra volersene lavare le mani nominando l'ennesima commissione che dovrà stabilire poi se questo viaggio si potrà fare oppure no. In tema di, però, di turismo, hanno incrociato le spade Sgarbi e D'Averio questa mattina, credo che fossero ad Agorà, sentiamo. Cosa capita in Italia paradossalmente? Che grazie alla parte peggiore di Pannella noi abbiamo cancellato il Ministero del Turismo in Italia. Quello dell'agricoltura, che è rinato come risorse agricole e politiche, quello delle, la mancanza sì, che era insieme, ma il Ministero del Turismo vuol dire che uno si applica a capire quali realtà possono svilupparsi e a promuoverle. Invece hai le regioni che si muovono in maniera assolutamente schizofrenica, si muove Vendola e sembra che sia il Presidente d'Italia, si muove Maroni, ognuno va come funziona, come vuole, e non c'è un'idea dello Stato e dello Stato della bellezza. Il paese è totalmente schizzato. Da un lato esiste una schizzato? Sorta di, sì, schizofrenico, una sorta di celebrazione della vitalità nell'ambito della politica, perché fra di loro se la contano, e poi il paese concreto, quello reale, è totalmente amorfo, non è più in grado di reagire, non ha un'idea, non ha una prospettiva. E la questione del turismo e delle vacanze è molto legata a quella faccenda lì. Cioè, i vecchi non vanno in vacanza, vanno in pensione, sono i giovani, cioè chi è aggressivo, chi ha da fare, chi lavora durante l'anno, che sogna la vacanza. L'Italia non è più un paese di giovani. Due grandi critici d'arte, Sgarbi che dice, se la prende col fatto che in Italia non c'è più il Ministero del Turismo, abolito con un referendum, una delle varie lenzuolate di referendum degli ultimi anni, una follia secondo lui, una follia anche secondo molti altri. Il fatto che non ci sia un coordinamento delle politiche per quanto riguarda il turismo, si assiste a sparate isolate come quella per esempio in questi giorni, ieri e oggi sui giornali, del sindaco di Forte dei Marmi che chiede di prolungare la chiusura delle scuole fino al primo di ottobre per recuperare un andamento disastroso, dice lui, della stagione balneare in Versilia. Poco fa tra l'altro il ministro di istruzione Giannini ha risposto alla lettera del sindaco Forte dei Marmi e ha detto niet, inizio dell'anno che non si può rinviare, e vorrei anche vedere che ad agosto si cambia l'inizio della scuola perché lo chiede il sindaco di Forte dei Marmi. E invece D'Averio che la taglia corto, Filippo D'Averio dice niente da fare, l'Italia ormai è un paese di persone anziane, è un paese da pensionati e quindi non c'è spazio per il turismo. Ancora Sgarbi. Ma paghi le tasse per fare il palazzo della regione Lombardia, il palazzo della regione Piemonte, cioè le tasse io le pago per vedere merda. Quando tu fai un expo in cui davanti al castello Forzesco metti due cagate di tralicci che costano 7 milioni per non far vedere il castello, devi essere arrestato. Quando prendi un critico d'arte a cui dai 750 mila euro per fare una cosa che non sa, devi cacciarlo a pedate e arrestare anche lui. Ora, non funziona niente. Tanto tu non senti niente. 800 24 00 24, traffico, torniamo tra un attimo. Strade in diretta. Trovati ancora traffico fermo alle porte di Roma sull'Autosole per un incidente che ha coinvolto un camion e una cisterna. Il traffico è bloccato tra l'innesto per la 24 e la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Congestionato anche il traffico lungo la diramazione Roma Sud in direzione del Grande Raccordo Anulare. Per altri incidenti le code a Milano in tangenziale est tra Rubattino e Linate in direzione dell'innesto per l'Autosole e difficoltà anche sulla 22 del Brennero tra Affi e Verona Nord verso Modena. Infine sale a 1:30 l'attesa al traforo del Monte Bianco in direzione Francia. Ne torniamo tra mezz'ora. Si può fare l'attualità anche d'estate. Gli uomini sessuali sono gente tali e quali come noi, noi normali, sanno piangere, sanno ridere, sanno battere le mani, proprio come noi persone sani. Gli uomini sessuali non ci avranno gli assorbenti, ma però fantasia da questa loro atroce malattia. Qualcuno le ha lette le barzellette sui gay uscite in allegato con Visto in edicola, il settimanale che Apriti Cielo è uscito con in allegato un volume di barzellette, di quelle da leggere sotto l'ombrellone così per passare meglio l'estate. Però all'interno, a fianco alle barzellette sui carabinieri, ce n'era qualcuna sui gay. E allora c'è stata una sollevazione contro la discriminazione anche in questo caso degli uomini sessuali. E allora noi ne parliamo con Vladimir Luxuria. Buonasera. Buonasera. Le ha lette lei queste barzellette? Intanto noi siamo persone dotate di una grande ironia e autoironia. Ecco, appunto. Per esempio, lei sta facendo sentire questa canzone di Checco Zalone che... e io sto ridendo perché mi sto ricordando questa scena e rido perché... più che offendere i gay, qui secondo me l'ironia è molto sull'ignoranza. Sì, assolutamente. A volte non è su tutte e due le cose, niente. Ovviamente, certo. Ma allora, io non... ecco, sì, sì. Io ho visto, diciamo... questa polemica. Allora, c'è in allegato con il settimanale Visto un libricino che si chiama le barzellette gay. Diciamo, sono datate, questo sicuramente, perché ci sono battute tipo... uno che dice all'altro tutto stilizzato, molto tipo il vizietto, uno che dice all'altro tesoro giochiamo a nascondino, se io ti trovo mi violenti tu, se non mi trovi sto nell'armadio, no? Queste barzellette che noi abbiamo sentito. Quindi intanto una critica un po' sul fatto che sono barzellette davvero datate. Sono degli stilemi vecchi in effetti. Sì. Grafica anni 70 e poi diciamo piena di stereotipi per cui che sono solo effeminati, pensano solo al sesso e tutte queste cose qui. Ma il volume è solo sulle barzellette, io non ho avuto modo di vederlo. Sì, è solo sulle barzellette gay e poi nei prossimi numeri ci dovrebbero essere invece le barzellette... per esempio sui carabinieri, cioè a tema ogni settimana una, perché è giusto che si possa ridere di tutto, oppure su questa questione dove pure ci sono anche state problemi, sofferenze, la cronaca, suicidio di Simone quest'inverno e tante cose quindi non si può più ridere, no? Mi sembra di capire che secondo lei si può ridere e si deve ridere. Allora io più che fare una valutazione sull'omofobia sulla cosa, veramente faccio una valutazione proprio di tipo artistico, perché oggi sinceramente riproporre queste barzellette che insomma neanche più, cioè Lino Banfi riproporrebbe, neanche Checco Zalone, fa una comicità diversa, la trovo veramente fuori dal tempo, datata, perché erano quel tipo di comicità, di battute che si facevano negli anni 70, quindi questa è la prima valutazione che ho detto anche a voce al direttore di Visto che ho sentito oggi. Sì, perché ne è nata niente proprio di meno che una petizione, anche qui forse si esagera, su change.org, dove ci sono credo 12-13 petizioni al minuto, una petizione per abolire, per ritirare questo volume, cioè, perché la critica che fa lei mi sembra più ragionevole, cioè non fanno ridere, sono battute vecchie. Non fanno ridere, sono battute vecchie e sinceramente questo tipo di spottò oggi non fa ridere più nessuno, lo dico veramente sinceramente. Io, conoscendo il direttore di Visto, ho avuto la sensazione che lui è sfuggito un po' di mano, perché conosco la sensibilità del direttore di Visto. Sì. È stata più una questione del marketing, perché a volte i direttori di giornali non sanno quando allegano i racchettoni per giocare o le cose, cosa c'è. Bene, che cosa e lui esce. Comunque mi ha promesso, cosa che farà sicuramente... sì, che nel prossimo numero di Visto farà un editoriale in cui comunque chiederà scusa, perché conosco la sensibilità di Roberto Alessi e quindi, sai, gli sfottò, per noi che siamo navigati, per noi che siamo dotati di ironia, riusciamo a capire quelli che non fanno ridere e quelli che non fanno ridere, però ci sono a volte questi sfottò un po' brutti, un po' volgari, che soprattutto, diciamo così, certe persone più fragili, soprattutto se adolescenti, diciamo così, possono provocare dei danni. Detto questo, io non è che adesso invito a boicottare o a fare delle cose, dico semplicemente che è stata secondo me una caduta di stile, una pubblicazione molto old fashioned, per cui chieda scuse e la finiamo qua. Ecco. Meglio così. Senta, invece il vero motivo per cui l'abbiamo chiamata questa sera è per parlarci di un'altra questione, cioè lei è stata contattata per fare il giurato a Miss Italia. Appunto, una provocazione. Cioè, mi creda, io non volevo, non avrei mai voluto, perché... No, però diciamo intanto cosa è successo, ha rifiutato. Diciamo questo, allora, mi chiamano chiedendomi di fare la giurata al prossimo concorso di Miss Italia che si terrà il 13 settembre a Jesolo. E fin qui niente, verrà... non è una battuta, è vero. No, è la verità, cioè verrà condotta da Simona Ventura. Ventura, mi hanno chiesto di fare la giurata, cioè a me, che notoriamente sono trans, almeno fino a prova contraria, quindi mi hanno chiesto di giudicare esteticamente le donne che concorrono a Miss Italia. Va bene, qua ci sarebbe niente di strano fin non qua. Non c'è niente di strano fin qua. Allora io ho chiesto, scusate un attimo, ma c'è ancora nel regolamento di Miss Italia quell'articolo 8,b che chiede che le persone che fanno il, diciamo, il provino, che fanno il concorso per far parte di Miss Italia devono mostrare il certificato di nascita. Perché? Perché questo regolamento dice che devono esserci solo donne che sono tali sin dalla nascita. Poiché c'è una legge di Stato dell'82 che prevede che le persone che cambiano sesso, che cambiano i genitali in Italia, poi vengono cambiati il nome sui documenti, ormai sono donne a tutti gli effetti, possono sposarsi col rito civile. Quindi loro chiedono addirittura di andare proprio all'origine, di portare il certificato di nascita. Quando io credo che se una persona esteticamente può fare Miss Italia, è donna a tutti gli effetti, io non capisco perché deve essere discriminata da un concorso televisivo. Cioè, secondo lei sarebbe normale però che una donna che ha un uomo che ha cambiato sesso diventando una donna, a quel punto lì per la legge italiana a tutti gli effetti una donna, e quindi sarebbe normale che andasse a un concorso di bellezza, però. Sì, cioè, perché no? Cioè, io le lotte contro la discriminazione vengono fatte per i posti di lavoro, per tutti gli ambiti, compreso anche un concorso che qualcuno giudica frivolo, qualcuno no, non sa me giudicare. Però sarebbe un bel paradosso che in Italia, il paese forse l'unico in Europa dove non le coppie omosessuali, per esempio, non si possono unire civilmente, eccetera, però si ammettesse una cosa abbastanza forte, un trans al concorso di Miss Italia. Sarebbe un po' un paradosso, proprio però in Italia. Diciamo la verità, allora, una persona che cambia sesso, secondo me diventa donna, non è neanche più trans, perché transessuale è comunque una persona che sta transitando, una persona che ormai ha fatto il cambiamento dei genitali, ormai è donna a tutti gli effetti, cioè per dirla ha la vagina, ecco per dire, ecco, quindi diciamo, una persona che ha la vagina e che quindi non c'è neanche l'imbarazzo del costume, dei bicchieri, tutte queste cose qui, che ha il nome al femminile sui documenti, che ha il genere femminile, che può... perché deve essere escluso da un concorso dove si chiede di risalire alle origini? Sarebbe come se, non lo so, ci fosse qualcuno che dice, allora, una persona che ha un colore di pelle scuro, anche se ha la cittadinanza italiana, ma se è nato in un altro paese non deve più avere i diritti di un italiano. La trovo sinceramente una violazione della privacy. Ma non perché... però ammetterà che c'è qualche differenza, comunque rimane, anche se questo, diciamo, percorso viene compiuto fino in fondo, no? Di passaggio tramite le operazioni che sono ammesse. Non sarebbe meglio fare un concorso Miss Trans? Esiste un concorso Miss Trans per le trans che non sono operate, però, Sì. Cioè, per coloro che non sono operate esiste un concorso che si chiama Miss Trans, tra l'altro, che verrà fatto contemporaneamente a Miss Italia in una piazza che il sindaco di Napoli concede per questa manifestazione. Però quella riguarda le persone che hanno ancora non hanno compiuto l'operazione. Mentre io ripeto, le persone che hanno fatto. Cioè, rimane questo, ormai... diciamo, nicchia. Insomma, quante sono, tra l'altro, in Italia le trans operate? Ce l'hai i dati? Ma guarda, saranno pochissime, saranno 2000 persone in totale. Si potrebbe fare però un concorso, forse anche per. Ma guarda, per questa posso dire categoria? Una cosa: a me non me ne sarebbe neanche fregato niente di fare montare tutta sta polemica. Se non fosse stato per il fatto che mi hanno chiesto di fare la giurata, a quel allora punto sono stata provocata, ho detto tu me provochi, no? È presente Alberto Sordi davanti agli spaghetti? Eh no, allora me te magno. E io ho fatto la stessa cosa, allora me magno adesso. Perché io perché vado bene perché sono famosa? Perché magari per un po' negli ascolti? No, allora no. Allora se chiamate una trans come giurata, per favore non dovete discriminare le trans come concorrenti. Però lei è stata anche una bandiera, insomma, dei diritti, un politico anche di sinistra, ha partecipato anche a trasmissioni televisive, è diventato un personaggio dello Star System sicuramente. Però le chiedo, un concorso di bellezza oggi ha ancora senso secondo lei? Cioè quest'anno saranno riammesse lato B e bikini, tra l'altro. La vera emancipazione non sarebbe farla finita con queste cose? Guarda, la vera emancipazione la si combatte su più fronti. Io credo che Miss Italia sia un concorso di bellezza, come ce ne stanno tanti, e vedo veramente come fumo negli occhi il fatto che in Italia, diciamo così, hanno abolito il Ministero delle Pari Opportunità, sul doppio cognome ancora si fa fatica, c'è un problema di femminicidio enorme. Adesso cos'è il problema? I concorsi di bellezza. Sinceramente io non credo che una cosa tolga l'altra. Se una donna decide da sola di concorrere a un concorso di bellezza, perché no, insomma, altrimenti questo mi puzza di censura, non so come dire. Quindi insomma, emancipazione in questo momento vorrebbe dire per le donne, per le trans operate, poter partecipare a Miss Italia. Se lo vogliono. E quindi omologarsi a questo che però era un vecchio schema, un vecchio stilema, quello della donna apparenza. Si diventa donna e quindi si entra in questo modello, anche secondo, sì, beh, guarda, anche io secondo lei. Combatto la discriminazione nei colloqui di lavoro, sì, dove magari vengo a sapere che una persona in quanto trans viene discriminata. Succede. Combatto la questione della discriminazione all'università, dove magari un professore, vedendo il nome al maschile, può essere anche in qualche modo influenzato nel giudizio su questa persona, perché purtroppo succede. E lo faccio anche per quello che riguarda anche queste cose, se vogliamo, più frivole, più frufru, se vogliamo mettere, perché non voglio nessun settore in cui non ci sia discriminazione, per cui se una trans non le piace un concorso di bellezza non parteciperà, ma se una che si è operata e ha voglia di fare un concorso di bellezza e un regolamento lo vieta, pur essendo donna, cambiamo il regolamento. Ma a questo punto, Vladimir, ci andrà o no a Miss Italia? Cioè, che no, fa? No. No, io come concorrente no, perché è un problema anagrafico più che sessuale per l'età. Come giurata, ovviamente, sì. Come giurata no, non ci vado. Decisione irrevocabile, perché la Merignani ha detto che potrebbe aprire l'anno prossimo a questa cosa qua. L'anno prossimo ci ripensiamo. Cioè, se aprono, allora... Sì. Sì, dato che ho mie amiche operate, sì, e continuo a credere che essere donna ha un dono della natura, ha un regalo che ti fai da sola, per queste persone che diventare donna è stato una conquista, è stato un costo, è stato anche sofferenza, perché comunque tutta una serie di operazioni, di percorsi psicologici, di cure ormonali, non capisco perché si devono vedere la trans giurata e la trans concorrente no. A me le cose di incoerenza non mi piacciono. Senta, un'ultima cosa, sempre parlando con un ex politico del partito di Vendola, comunque di sinistra, una tesi cara alla sinistra che ha ripetuto Di Battista in questi giorni nel Movimento 5 Stelle, quella del terrorista. Ha letto queste frasi sul suo blog, che ne pensa? Condivide? No, io non condivido, io continuo a pensare che con i violenti, con coloro che usano la violenza come strumento, non si dialoga, che sia un mafioso, che sia un terrorista, che sia uno stupratore, no, io con i violenti non c'è dialogo. Quindi in questo momento in Iraq fa bene l'America, diciamo, a bombardare anche dove ci stanno questi ribelli dell'ISIS che vogliono istituire il califfato e che stanno, questo sì, probabilmente per quel che ne sappiamo, massacrando un po' di gente. Beh, non si può sicuramente voltare la testa dall'altra parte quando ci sono situazioni di vere e proprie pulizie etniche dettate da un motivo religioso, cioè saremmo omertosi da questo punto di vista. Quindi a me, guarda, io non mi faccio la cosa sinistra, non si, io ho un mio pensiero autonomo, sono stata candidata anche come indipendente in quel partito, per cui provo a pensare se anche l'Italia fosse stata lasciata ai tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Quindi purtroppo a volte ci sono delle situazioni in cui bisogna usare dei metodi che non mi piacciono, ma che servono in qualche modo a proteggere delle popolazioni che altrimenti vengono sterminate, o per motivi etnici o per motivi di orientamento, di religione. Va bene, grazie, buona serata e buona estate, Vladimir Luxuria. Salve. 800 24 00 24. Borsa, intanto, però, la notizia abbiamo già detta dell'ultima ora, diciamo, è il no del ministro Giannini alla richiesta del sindaco di Forte dei Marmi di prolungare la chiusura scolastica per risollevare la stagione degli stabilimenti balneari. Borsa. Una speciale dedica a Moreno che su Twitter ci dice: si dice contento di aver potuto sentire i Pancreas a Radio 24, si può fare, probabilmente a Radio 24 non l'aveva mai sentiti, questo è poco ma è sicuro. Per ripartire dalle frasi di Alessandro Di Battista, il parlamentare del Movimento 5 Stelle, che sul suo blog tre giorni fa, c'è stato il weekend, nel frattempo è Ferragosto, aveva detto questo. A questo punto rileggo tutto il post perché qualcuno ci sta già scrivendo al 349-238-6666 agli sms che abbiamo estrapolato una parte del discorso di Di Battista. Leggiamo tutto. Allora lui dice: se a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato, io ho una sola strada per difendermi, a parte le tecniche non violente che sono le migliori: caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. Nell'era dei droni e del totale squilibrio degli argomenti, degli armamenti, il terrorismo, non ne becco una, è la sola arma violenta rimasta a chi si ribella. Prosegue Di Battista dicendo: dovremmo smetterla di considerare il terrorista un soggetto disumano con il quale nemmeno intavolare una discussione. E qui qualcuno su Twitter è stato molto ironico e ha detto: quello era Bersani, il soggetto disumano col quale non intavolare una discussione. Invece con l'ISIS, secondo Di Battista, sì, si può intavolare una discussione. Finisce Di Battista dicendo: l'obiettivo politico dell'ISIS ha una sua logica. E però poi qui bisognerebbe capire quale logica. 800 24 00 24. Io ho detto semplicemente che, parlando con molte persone, non ho visto gente sconvolta per questa frase, che nella sua semplicità è quasi banale. Gli americani usano i droni, bombardano, mettono su un regime dopo l'altro, e questi qua sono convinti delle loro idee, sbagliate sicuramente secondo me, forse anche secondo voi, ma vanno e si fanno esplodere con quello che hanno. Andiamo a questo punto invece con i vostri interventi, cari ascoltatori. Daniela, che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera. Premetto che io conosco abbastanza l'Africa, ci ho anche vissuto. Allora, siccome ora si sente tutto, ogni giorno arrivano 2.000 persone, praticamente sono arrivate persone quasi due città da 60.000 persone. Allora mi domando, non si dice mai, faccio un premesso, che sono quasi tutti africani, inutile che si dica che siano, voglio dire, siriani, basta vederli in faccia, insomma. E poi, per esempio, ieri sera su Rai 1 ho visto una trasmissione sull'Uganda, dove c'erano i turchi, che è diventato un paese civile, no? E lì non abbiamo aiutato assolutamente. Sì. Bene, io vorrei sapere chi li pagherà, che cosa faranno. Guardi, Daniela, le do un dato però, perché qui si aggirava intorno il nostro esperto di esteri, Giampaolo Musumeci, al volo mi ha detto: l'anno scorso solo i siriani erano 20.000. Quindi non sono, sarebbero circa un 20% di quello che dici. Sì, vabbè, 20%, gli altri sono l'80%, vabbè, no? Sì. Poi non sono persone, voglio dire, spesso davvero sarebbe molto più semplice aiutarli lì, questo è un discorso. No, anche fatto. Perché se no mi dovete spiegare perché dobbiamo bombardare l'Iraq, però poi quando arrivano qua i profughi che scappano da quelle zone lì non dovremmo accoglierli. Profughi sono una cosa, gli africani sono un'altra. Esatto, infatti cominciamo a distinguere. Sì. Ecco, facciamo distinguere, proprio una bella distinzione che voglio fare. Bravo. Volevo anche dire, arrivano tante mamme più sì? o meno. Allora mi domando, l'ho detto anche la signorina, in Italia non si fa niente per le mamme, cioè ci sono persone che hanno la partita IVA, quando sono incinta vengono mandate via, e se non hanno i nonni oggi tanto bistrattati, no? Quindi sarebbe veramente un problema, perché poi si dice l'Italia non hanno figlie, per forza in Francia vengono aiutati tutti. Ma qual è il collegamento, scusi, tra gli immigrati donne e le italiane? Siccome arrivano, quando arrivano sì. le mamme, sembra che arrivino, che solamente ci sono le mamme africane. No, le mamme italiane, nessuno ha mai detto questo, guardi. Cioè, colpisce, adesso non paragoniamo una madre italiana che ha la difficoltà dove mettere il bambino all'asilo e il problema del lavoro, che sicuramente sono problemi grossi, con una mamma incinta o con dei bambini piccoli che attraversano il mare in un barcone e muoiono in mezzo all'acqua. Non facciamo questo paragone perché mi sembra francamente che non stia proprio in piedi, sono cose diverse, per fortuna nostra, siamo messi ancora un pochino meglio delle donne incinta che affrontano il viaggio nel canale Sicilia. Daniela, grazie comunque. Luisa da Roma, buonasera. Buonasera. scusi, ho un po' fretta, quindi dico velocemente. Se vuole, ci sentiamo direttamente domani, se ha più tempo. Velocemente quello che devo dire. E praticamente mi riferisco alle frasi di Di Battista. Siccome ho sentito ieri la conversazione a Radio Radicale tra Pannella e Bordin, hanno proprio sviscerato tutte le cose che ha detto Battista. Premetto, non sono grillina, non me ne importa niente, però praticamente se si legge tutto e si sviscera il pensiero di questo Battista, si può ridurre a una frase che ha fatto comodo ai giornali in agosto per fare gli articoli e quello che ha detto. Praticamente lui ha fatto un ragionamento molto articolato, dice che preferisce il tutto la non violenza, ma che in certi casi si dovrebbe elevare a interlocutore queste persone del califfato per poter trovare una via d'uscita. Praticamente mi è sembrato infierire, perché questo è un grillino eccetera, su questo ragazzo. Ma chi è infierito, io? No, i giornali, quello che è stato detto, quando persone molto più qualificate di me, come un Bordino, un Pannella, hanno fatto un ragionamento articolato. Ecco, questo volevo dire. Va bene, grazie Luisa. Grazie, arrivederci. Buona serata. Francesco, dalla provincia di Ancona. Buonasera, benvenuto. Buonasera a voi. Io ascoltavo l'intervento di Vladimir Luxuria e l'ho trovato inascoltabile, cioè la sagra della banalità, e anche tutto sommato anche molto omofobo, se essere una donna è un dono della natura o piuttosto che un regalo che uno si fa da sola. E vabbè, essere uomo, voglio dire, è una iattura, cioè voglio dire. No, vabbè, io gli ho suggerito infatti di fare un concorso ad hoc per ogni categoria dove si gioca ad armi pari, sarebbe secondo me anche più giusto, perché l'ho detto anche a lei, ha voglia di fare l'operazione, ma è una cosa diversa, sei comunque una persona che ha una storia diversa, allora sicuramente sarebbe... No, ma sono... Sì. Sono d'accordo, per carità, è la bellezza femminile è qualcosa che è riconoscibile anche da una donna, per carità, così come quella maschile, io stesso l'apprezzo, non ho niente contro i gay, eccetera. Però è evidente che una donna diventata donna a seguito di un'operazione non è, per esempio, comunque una donna che può avere figli, no? Può procreare. Allora è normale che un concorso di bellezza per donne è comunque qualche cosa che riguarda prevalentemente, non dico esclusivamente, il gusto maschile, e onestamente io sono attratto da una donna. Vabbè, ma questo cosa vuol dire? Che in giuria non ci sono donne? Io non credo che in giuria non ci possano essere donne, o non ci siano state. Io credo che ci siano state, vogliate, in passato donne nella giuria di Miss Italia, perché infatti, una donna non può giudicare. La femminilità è qualche cosa che riguarda la donna intesa come, e non voglio essere, cioè non vorrei che qualcuno... No, ma non ho capito se lei ce l'ha col fatto che Luxuria sia in giuria e non possa giudicare della bellezza femminile, o su quello che ha proposto lei, che sono due cose diverse, cioè di far entrare anche le trans in gara. Non ho capito cos'è che non... Non trovo corretto far entrare le trans, ma nemmeno le donne operate, come giustamente Luxuria distingueva, perché comunque, e poi anche la storia dell'Italia, no? Il non dialogo con, a parte che non dialogare è già qualcosa di estremissimo, no? Se non dialoga, quindi li stermino tutti, per faccio come mi pare, non dialogo con nessuno. Voglio dire, gli americani, sulla frase più in generale del parlamentare, là, insomma, il discorso è questo: si va fuori a fare missioni di pace umanitaria, ma si mandano militari perché c'è un ritorno economico. Leggevo, anzi, lessi tanti anni fa, quando era all'epoca del Iraq, che l'Italia era uno dei pochi paesi, anzi l'unico paese occidentale, che non faceva pari con i soldi spesi con i militari piuttosto che con quelli poi reincassati dalle commesse. Ora, questo è difficile da valutare, Francesco, è difficile da dire, molto però difficile. In Italia ci sono basi americane a tutt'oggi, gli americani, se non era per Mattei e compagnia, ci vendevano gasolio, no? E carburanti, cioè non c'è un interesse umanitario puro sempre, quindi Io credo che insomma tutto sommato la frase che ha detto il parlamentare sia condivisibile dal punto di vista di quelli che ci stanno, che poi non sia attuabile, perché noi, voglio dire, viviamo nel mondo occidentale, siamo qua e il mondo non è giusto, è un altro discorso. Sì, grazie. Ma però è vero che è vero che non possiamo dividere, secondo me, almeno il mondo e basta, in buoni e cattivi, e risolverla lì. Se non altro perché i cattivi cambiano in continuazione. L'America ha armato i talebani per fare la guerra alla Russia e poi dopo ha fatto la guerra ai talebani. Quindi già solo per questa ragione sarebbe difficile dividere il mondo in buoni e cattivi. Cioè, chi ama farlo. Secondo me la frase di Battista serviva per evitare questo schematismo. E ripeto, mi è sembrata anche abbastanza banale nella sua semplicità. Poi, se lui voleva sostenere diciamo la parte dell'ISIS e del califfato, questo non lo so, non credo, ma in quel caso non sarei d'accordo. Tiziano, dalla provincia di Venezia, buonasera. Buonasera. Ascolti, io anch'io vorrei riallacciarmi al discorso che faceva prima con Luc Suria, che diceva di parlare, cioè che anche gli uomo sessuali, diventati donne, potevano fare Miss Italia volendo. Però vorrei tornare un po' più indietro, una quindicina d'anni fa, quando si ricorda ha vinto Mandy Mendez, la ragazza di Santo Domingo, mi sembra. Sì, prima e unica italiana di colore, sì, ad aver vinto Miss Italia. Secondo me c'è una cosa sbagliata. Sì? Perché cosa? Per far Miss Italia non basta la cittadinanza italiana, secondo me bisognerebbe essere anche di origine italiana. Perché se io vado a Santo Domingo e vado a vedere, non so, Miss Santo Domingo, mi trovo una ragazza italiana, bianca, quindi, che vince, beh, io non sono razzista, per carità di Dio, però... Ho capito, Tiziano, grazie anzi per aver chiamato, però non era questo, diciamo, la notizia. Cerchiamo di stare un po' sulla notizia. Qua si stava discutendo di un'altra cosa, non della nazionalità o della cittadinanza delle partecipanti al concorso di Miss Italia. 800 24 0024, torniamo tra un attimo dopo il traffico. Strade in diretta. Buonasera, è invariata la situazione alle porte di Roma sull'Autosole per un incidente che ha coinvolto un camion e una cisterna. Ormai alcune ore fa il traffico resta bloccato tra l'innesto A24 e la diramazione Roma Sud, con 3 km di coda in direzione Napoli. Il traffico è congestionato anche lungo la stessa diramazione Roma Sud in direzione del raccordo anulare. Risente di altri incidenti la circolazione a Milano in tangenziale est, siamo tra Rubattino e Linate in direzione Bologna, così come sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo all'altezza di Alcamo verso Palermo. Ed è tutto, a più tardi. Si può fare l'attualità anche d'estate. Decisamente schierata la scelta musicale di questa sera a Si può fare. Allora, intanto lo salutiamo, il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, buonasera. Buonasera a tutti voi. Parliamo della sua proposta che, a dire la verità, nello spazio di un matin, cioè nel spazio di un mattino, ha sia raccolto proseliti, sia ricevuto una risposta negativa da parte del ministro poco fa. Sì, diciamo che il ministro intanto ha dato atto che a breve, come dire, iniziano le scuole, quindi fra meno di un mese. Non c'era tempo, doveva uscire però, prima con questa proposta, sindaco. Ma chi se lo immaginava che ci trovavamo in mezzo a un'estate così balorda? Ma è andata malissimo la stagione, è andata malissimo la stagione nel balneare. Diciamo che la stagione ha avuto il mese di luglio soprattutto, che è stato il tempo, insomma, l'abbiamo vissuto tutti, quindi... Però l'abbiamo visto da tutti, e quindi io ho fatto qualche giorno di mare a luglio, me la sono cavata, sì. L'ho fatta a luglio e non ad agosto, infatti sono qua adesso e vorrei essere di nuovo al mare. Però non è che voi commercianti, cioè voi, insomma, lei è il sindaco, però i commercianti che lei rappresenta in questo momento si lamentano sempre comunque delle stagioni balneari, dell'andamento dei turisti, sempre in calo. No, beh, guardi, intanto le dico... L'idea del prolungare la stagione, sì, non è legata poi a questa stagione e basta. Io 2 anni fa che la stagione era già normale, avevo già 2 anni fa e abbiamo consentito da allora agli stabilimenti balneari di stare aperti fino a novembre. Perché? Perché nel mese di settembre-ottobre il tempo era bellissimo. E allora, considerato che comunque il nostro paese, tutti riparliamo di rilanciare l'economia, bisogna dare impulso all'economia, eccetera, eccetera. Tac, lei dice. Perché allora, visto che il turismo, e mi creda, non è solo una considerazione legata al turismo balneare di Forte dei Marmi, io penso al turismo in genere, che nel mese di settembre anche le famiglie italiane, magari cercando anche di spendere un po' meno, visto che la stagione si considererebbe a quel punto bassa stagione, magari anche visitare le città d'arte, perché no? Però io non ho capito una cosa di questa sua proposta, non ho letto la lettera che lei ha inviato al ministro Gianni. Se intende posticipare la riapertura delle scuole e basta, o posticipare anche, diciamo, la chiusura, nel senso, già si fanno 3 mesi di vacanze a scuola, che sono tanti. Mi scusi, io ho 45 anni, non so lei quanti anni ha. Scusi, 54, non 45, 54. Se ne è tolti anni. 9 così all'improvviso. Me ne sono tolti così di botta. Però io ai miei tempi se andavo a scuola il 1° d'ottobre. Sì. E c'era chi veniva in vacanza a Forte dei Marmi e faceva 4 mesi, da giugno a settembre, ok? O c'erano le famiglie che facevano le vacanze solo di giugno e alcuni solo di settembre. Ho capito i suoi ricordi. Con tutto rispetto, mi scusi, con tutto rispetto, a me non sembra che questi giorni in più abbiano prodotto alla fine, oppure diciamo all'opposto, che abbiamo fatto meno scuola, siamo più ignoranti di quelli di oggi. Ah, lei la mette su un piano del confronto generazionale, dice addirittura. No, la metto che secondo me non è la quantità del tempo. Però c'è un tema sul fatto di quanta scuola, quante vacanze si fanno, è stato detto 1000 volte, no? Vabbè, e questo. Cioè, voglio dire, per dare credibilità alla sua proposta, io mi domando, bisogna renderla sostenibile. Certo, ma infatti il ministro ha dichiarato anche la disponibilità a incontrarmi, ma al di là di incontrare il sottoscritto o meno, l'importante è che il ministro con le regioni, perché il tema non è solo che riguarda solo il ministro, di dialogare e riflettere su questo aspetto. Il nostro è un paese che vive essenzialmente di turismo. C'è bisogno di dare respiro, ma anche in questo caso non solo per far lavorare chi vive il turismo, ma le stesse famiglie che troverebbero nei periodi di bassa stagione la possibilità di organizzare comunque le vacanze spendendo meno. E per la questione scuola, ripeto, non è la quantità di tempo che si sta a scuola, è la qualità del tempo che i nostri ragazzi che stanno nelle scuole dovrebbero, al mio modo di vedere, e quindi è il tempo come si utilizza il tempo che si sta. Senta, quanto costa un ombrellone, 2 sdraia in Versilia per 15 giorni? Tanto per avere un'idea. A Forte dei Marmi in Versilia i prezzi sono diversi, perché si va da un'offerta come può essere la nostra di un prezzo politico sulle strutture nostre balneari del comune. Noi abbiamo 2 stabilimenti balneari dove lei con 15 euro può usare un ombrellone e può usarla anche per periodi 15 giorni, una settimana, quello che vuole. No, non ho capito, 15 euro per una settimana? No, per una settimana, ma per il giorno. Per il giorno? Per il giorno, 10 euro, 15 euro a seconda di quello che chiede. 450 euro al mese sono, però. Può trovare anche delle offerte che vanno dai prezzi più alti, oppure anche a chi magari con 200 euro, 250 euro al mese gli danno tutto, danno un ombrellone di 2 sdraia, quindi le offerte possono essere di diversi tipi. Secondo lei sono prezzi, diciamo, a parte che la Versilia avrà un target sicuramente di turismo non ultra popolare, ma sono prezzi allettanti per i turisti questi qua? Ma senta, quello che conta secondo me è l'offerta negli insieme che sono fatta, che certo, tipo di a fronte di cosa uno ottiene pagando quei soldi. Lì. Il mare non è granché, mi dispiace dirlo, io sono di quelle parti, però già si comincia male. Ma senta, io dico sempre, se lei mi prende un bicchiere di acqua minerale, non citiamo il nome per non fare pubblicità, e mi metto in un bicchiere d'acqua un po' di ghiaia, sa, delle rocce, piccole rocce, l'acqua rimane chiara, ma se io le metto dentro il bicchiere dell'acqua minerale un po' di sabbia, la sabbia, lo sappiamo, e la muovo, chiaramente non sarà chiara come quella che c'ha Sassolini nell'acqua, è ben diversa, ma per il resto l'acqua è buona. È pulita, vuol dire? È pulita, sì, è buona. può essere. C'avete la bandiera blu lì a Forte dei Marmi? Ma noi Forte dei Marmi da sempre abbiamo la bandiera blu, e la cosa sulla quale noi abbiamo investito in questi anni di portare la nostra bandiera blu sulle Alpi Apuane, perché diciamo che la cosa bella di questo comprensorio, chi viene in vacanza qua, è che può stare sotto l'ombrellone oppure con 20 minuti per raggiungere le Alpi Apuane, dove Michelangelo ha cavato i marmi, e visitare dei luoghi incredibili, così come da un punto di vista enogastronomico può mangiare il pesce e gli spaghetti con le arzelle sulla riva del mare, o trovare i funghi e il cinghiale nelle nostre montagne che stanno alle spalle. Quindi offriamo tutto, dal mare alla montagna. Ecco, e nonostante questo, insomma, è stata una stagione non brillantissima. Guardi, insomma, le dirò, il percentuale, che calo c'è stato? Siete in grado di fare una stima? Non ancora, perché parlavo con la provincia l'altro giorno, stanno definendo ancora questi dati. Noi abbiamo su Forte dei Marmi una presenza di molti turisti stranieri, e non solo russi, perché russi, molte volte si collega a Forte dei Marmi russi, quest'anno sono cresciuti gli americani, tanti arabi, e devo dire che gli stranieri che vengono hanno già fatto il viaggio, e molte volte, insomma, anche se si trovano, come dire, il tempo così e così, però noi abbiamo subito anche in questi anni, non solo Forte dei Marmi, per quello che riguarda il turismo italiano, anche le vicende legate al fatto che oggi lei si trova in meteo, i siti meteo, che tutti che danno il tempo, addirittura lo danno già per un mese, lei sa già fra un mese quello che succede, cosa che è impossibile. Vai, e con la polemica contro il meteo. No, ma è la verità, mi creda. Sì. Ci siamo trovati a volte con dei fine settimana che era tempo bello e che però non veniva nessuno perché aveva andato l'acqua. Però questo, quindi, cioè, ma lei dice che c'è un accanimento particolare nei confronti di Forte dei Marmi da parte del sito? No, c'è un errore che si spalma, si spalma da tutte le parti. No, ma io le dico in tutta Italia, non solo per Forte dei Marmi. La mia proposta è quella di dire della stagione, non riguarda Forte dei Marmi e il mio comune. Certamente è una riflessione, parlando con amministratori, imprenditori non solo di Forte dei Marmi ma anche di altre parti d'Italia che in questi anni ho avuto modo di incontrare, tutti dicono però purtroppo cosa vuole, dopo a settembre iniziano le scuole e siamo fregati, e questa è la considerazione che ormai fanno tutti. Però allora, scusi, visto che come abbiamo sentito prima un Philippe Daverio dire, e secondo me ha ragione, che l'Italia è un paese di pensionati, perché lo siamo sempre di più per questioni anagrafiche, chi vieta ai pensionati di venire al mare a settembre, a ottobre da voi, se siete ancora aperti? Nessuno, non le scuole. Certamente. Per quello che riguarda, però non è che c'è una mentalità per cui da noi non si va più al mare a un certo punto, cioè diciamo anche questo, no? Perché sì, bravo, ma è entrato un po' questa come logica, cioè che è quella di dire si entra un po' nel periodo e si dice ma dopo a settembre iniziano le scuole, il pensionato magari è anche il nonno di un bambino che poi deve andare a c'ha prendere da fare, la scuola, c'ha da fare. E quindi magari c'ha da fare anche quello. E quindi, come dire, senta, ma si sono visti davvero il ministro Giannini e Boschi dalle parti lì a Forte dei Marmi, dalle vostre parti? Ma senta, io le posso dire che stamani il ministro era sulla spiaggia di Forte dei Marmi, il ministro Giannini, e ieri Matteo Renzi era a Forte dei Marmi, la Boschi era qua qualche giorno fa. Quindi avete quasi il governo schierato, insomma. Come dire, potrebbe fare Matteo Renzi magari la prossima volta convocare il Consiglio dei Ministri a Forte dei Marmi. E affrontare questa questione seria del turismo in Italia, no, a parte gli scherzi. Sì, no, è una questione seria. Poi, davvero, poi diciamo, di lì a dire che si debba piegare la questione delle riaperture scolastiche ad una necessità del turismo è un altro discorso, ma porre, come ha fatto lei, la questione del turismo sicuramente è corretto. Grazie e anche a lei buona estate. Ci fermiamo qua, Giornale Radio, torniamo subito dopo, a più tardi. Sì, può fare! L'attualità, anche d'estate. Una mattina giunge l'eco delle bombe, l'adrenalina in corpo con la rabbia che mi spinge a protestare, far saltare tutto in aria. Questione di Battista, che ha parlato del terrorismo come unica arma per ribellarsi. Voi cosa ne pensate? che lei è un puerete. Chi parla di terrorismo e di farsi esplodere in metropolitana è un deficiente. Se poi viene da un movimento come il Movimento 5 Stelle che ha cancellato il reato di immigrazione clandestina, grazie al quale stanno sbarcando migliaia e migliaia di persone, se qualcuno inneggia il terrorismo in metropolitana, mi fa schifo e mi fa paura. Dal Movimento 5 Stelle arrivano ancora una volta dichiarazioni inaccettabili. Dare copertura morale al terrorismo internazionale, confondere vittime e carnefici in questa nuova tragedia irachena è non solo grave, ma è anche pericoloso. La frase postata da Alessandro Di Battista del Movimento 5 Stelle sul suo blog: se a combattere, a bombardare il mio villaggio è un aereo telecomandato, io ho una sola strada per difendermi, a parte le tecniche non violente che sono le migliori, caricarmi di esplosivo e farmi saltare in aria in una metropolitana. Frase che è bastata a Marco Pannella per definire Di Battista, lo stesso Di Battista, un gandiano. Un gandiano perché non trascura le armi non violente. Però poi conclude il post dicendo: l'obiettivo politico dell'ISIS ha una sua logica. 800 24 00 24, cari ascoltatori, e voi cosa ne pensate? Adesso però sentiamo cosa sentiamo. Alfano, cioè abbiamo Alfano, va avanti la politica, soprattutto tra la Lega e Alfano in tema di immigrazione. L'Italia si è dimostrata ancora una volta campione del mondo di accoglienza. Dobbiamo essere orgogliosi di avere salvato le oltre 70.000 vite umane dall'ottobre scorso, dall'avvio dell'operazione Mare Nostrum. E la nostra linea rimane la stessa: accogliere le donne, i bambini, quelli che rischiano la morte, la persecuzione nella loro casa di origine, nel loro paese di origine, e al tempo stesso rispettare tutte le leggi che prevedono il contrasto alla immigrazione illegale. Ieri il ministro dell'Interno, che si dice di centrodestra, si è detto orgoglioso perché l'Italia è campione del mondo di accoglienza. Secondo me è campione del mondo di coglioneria, non di accoglienza, perché non ce n'è più, non ne abbiamo più. Chi oggi, tra virgolette, è etichettato come evasore, con delle tasse che arrivano al 60%, e magari è un commerciante, un artigiano, un piccolo imprenditore, e decide di pagare lo stipendio al dipendente e di non pagare lo Stato, non è un evasore, è un eroe per quanto mi riguarda, perché il dipendente ha a casa una famiglia, lo Stato è il primo ladro. Il ministro dei beni culturali Franceschini ha aperto alla proposta di Vittorio Sgarbi di portare i bronzi di Riace, o almeno uno dei due, così ha controproposto Filippo D'Averio, a Milano per Expo. Sapete che Sgarbi aveva accusato la sovrintendenza, i sindaci, gli amministratori della Calabria di volerseli tenere lì per questioni mafiose, è un'accusa pesante. La decisione spetta a Franceschini, che però ha deciso di istituire una commissione ad hoc per valutare se questo spostamento si può fare oppure no. Insomma, una valutazione attenta da parte del ministro, perché sappiamo che è stato detto che i bronzi di Riace sono fragili, fragilissimi, dunque bisogna vedere se esporli a questo viaggio è possibile farlo oppure no. Il dubbio è che Franceschini sia nascosto dietro l'ennesima commissione per non avere, diciamo, il coraggio, vogliamo dirlo, di prendere una decisione subito e dire sì, portiamoli oppure no, non portiamoli, perché che sono fragili l'abbiamo capito tutti, lo sappiamo, eccetera eccetera. Però che si possa fare questo spostamento è stato anche detto che si può fare, quindi insomma è solo una decisione da prendere. Chissà, forse Franceschini però in questo momento non se la sente di prendere una decisione così, che poi, voglio dire, non mi sembra che lo metta a rischio di qualche cosa. Ecco, forse sì, se durante il viaggio si rompessero i bronzi di Riace, questo sarebbe un bel patatrac per il ministro. Strano che non si sia già informato fino ad ora. Sgarbi. Cosa capita in Italia, paradossalmente, che grazie alla parte peggiore di Pannella noi abbiamo cancellato il Ministero del Turismo in Italia. quello dell'agricoltura che è rinato come risorse agricole, politiche, quello del, la mancanza sì, che era insieme, ma il Ministero del Turismo vuol dire che uno si applica a capire quali realtà possono svilupparsi e a promuoverle. Invece hai le regioni che si muovono in maniera assolutamente schizofrenica, si muove Vendola e sembra che sia il Presidente d'Italia, si muove Maroni, ognuno va come funziona, come vuole, e non c'è un'idea dello Stato e dello Stato della bellezza. Animalisti all'ascolto, attenzione, perché lo sapete, c'è un'allerta per catturare Danizza, l'orso che in Trentino ha aggredito un uomo che stava cercando funghi. Un orso di quelli che è stato messo lì per ripopolare proprio di questa popolazione di orsi le montagne del Trentino, una ripopolazione che però adesso è sfuggita di mano. Qualcuno chiede che venga abbattuto l'orso perché minaccia animali e persone. Invece questi che sentiamo adesso, il presidente del WWF Trentino, che invece chiede la mano leggera su questa orso Danizza. Sentiamo. È evidente che Danizza è un'orsa che ha probabilmente più di altri esemplari un po' di dimestichezza con l'uomo, che le fa sì che probabilmente le costa meno in termini di paura avvicinarsi alle persone. Tuttavia mi augurerei che, se proprio la decisione è quella di rimuoverla, la rimozione sia non una soppressione ma una cattura, lei e i suoi cuccioli, per permettere ai cuccioli di crescere con la madre. Quando fuori flexi Superman, senza fare love non si può stare. Oh baby, beach on the beach, femmine e uomini vanno a caccia, gli occhi neri e gli occhi blu. Quante signorine very nice fanno uscire pazzo tutti i boys. L'estate qua, you know, per farci innamorare ad ogni età, you know, frenare un poco e poi lasciarsi andare, you know, in fondo sai che quando torni back alla città tutto finirà. Mannaggia, giù le mani da mamma Danizza. Uomo e orso possono convivere, scrive oggi il giornale. Chissà se uomo e orso possono convivere. È qui che andiamo a piantare stasera l'ombrellone di Beach on the Beach, proprio in Trentino. Salutiamo Giacomo Bezzi, consigliere provinciale di Forza Italia a Trento. Buonasera. Buonasera. Ci racconti se ci sono novità nella vicenda dell'orsa che sta appassionando, diciamo. A noi come forze di opposizione, sì, rispetto al governo di centro-sinistra. Sì, però è partito così a gamba tesa con le forze di opposizione. Mi faccia prima un po' di cronaca. Mi faccia un po' di cronaca. L'avete ritrovata l'orso intanto? No. Ma no, stanno, la Guardia Forestale stanno cercando di catturare questo orso, non ucciderlo, catturarlo, sì, per poi valutare uno spostamento in una zona presidiata. Perché l'ordinanza per ora prevede questo, la cattura. Sì, sì. Sì, non mi pare che ci sia in Trentino nessuno che voglia uccidere gli orsi, al di là di quello che si è scritto e detto sui media nazionali. Perché qualcuno ha detto minacciano le persone, mandano a monte anche la stagione turistica. No, il problema è questo, che questo è un progetto che c'è da 10 anni e il governo di centro-sinistra l'ha gestito male, nel senso che gli orsi sono aumentati a dismisura. Quanti ce ne sono adesso, si sa? Adesso circa una cinquantina, su un territorio che è antropizzato e urbanizzato molto rispetto a 100 anni fa, rispetto al passato, e se non si trova il modo di valutare questo progetto di inserimento degli orsi, nel medio e nel lungo periodo potremmo trovarci fra 4-5 anni a una presenza di esemplari talmente significativa che possono, come dire, venire a contatto con l'essere umano in maniera molto forte, molto ravvicinata, perché siete partiti con questo progetto 10 esemplari 10 anni fa e in 10 anni sono diventati 5 volte tanto. 50. Alcuni sono deceduti in modo naturale per le lavine o le valanghe durante l'inverno, però diciamo che adesso noi come forza di opposizione abbiamo chiesto una conferenza di informazione per confrontarci tra qualche settimana con tutti gli esperti del settore italiani e europei, per capire come si può calibrare meglio questo progetto, per fare in modo che la presenza dell'animale ci sia, ma sia una presenza compatibile con un territorio ormai antropizzato e urbanizzato in maniera forte, con una presenza forte dell'uomo nei boschi, perché ci viviamo nelle valli, nei paesi di montagna noi, come pure ci vengono a trovare tanti turisti. L'uomo ferito intanto come sta? Ha avuto ferite? No, l'uomo ferito sta bene, ma sì, non è il primo caso, ce ne sono già stati diversi casi. Il problema è che la maggioranza di centrosinistra ha gestito male anche la comunicazione, perché chiaramente se si dà in pasto ai media il fatto che una mamma orsa difende i due cuccioli, è evidente che tutti umanamente... Perché invece non è vero? Non è vero che difende i cuccioli? No, è vero che difende i cuccioli, però non è questo il tema, perché poi in primavera tanti esemplari di orsi sono avvicinati all'uomo anche per cercare di mangiare, hanno ucciso delle pecore, hanno ucciso delle galline, evidentemente sono entrati negli orti di case di residenti dei paesi delle nostre valli. Quello che noi vogliamo fare è sostanzialmente fare una conferenza di informazione, prendere tutti gli elementi scientifici per capire come possiamo garantire la presenza di questo animale, in che misura, in quale quantità, e eventualmente se ci sono da limitare la presenza del numero di questi orsi, come spostarli si fa? In luoghi spostarli, perché qualcuno la mette tra quelli che insomma hanno la doppietta facile, che vorrebbe invece... io non ho mai detto di uccidere gli orsi, io ho solamente detto che se dopo una attenta analisi di questo progetto, che prevede magari fra 4, 5 o 10 anni una presenza massiccia di animali che non possiamo permetterci su un territorio piccolo, perché tenga conto che poi se questi animali vanno oltre i nostri confini della provincia autonoma di Trento, in altre province o in altri stati come l'Austria gli sparano o la Germania. Quindi voglio dire, noi dobbiamo... Perché la caccia all'orso è ammessa in Austria, per esempio, in Germania? Esatto. Un orso sconfinato ed è stato ucciso. Allora, subito. Mi dica una cosa, però. Gli italiani devono capire che noi non siamo la Transilvania o territori montani dove abbiamo boschi come nella British Columbia o in Canada estesi. Noi siamo un piccolissimo territorio. Ma quindi, secondo lei, 50 orsi sono già troppi per quella zona? Cioè, il progetto di ripopolamento è andato oltre diciamo, le aspettative? O era quello che si aspettava? Qual era l'obiettivo da raggiungere? L'obiettivo iniziale è quello che il reinserimento funzionasse, che ci potesse essere questa presenza. Adesso abbiamo anche, tra l'altro, la presenza del lupo che comincia a essere reinserito. E quindi quello che diciamo noi da anni è che comunque adesso dobbiamo fare il punto e cercare di capire, di garantire una presenza che sia, come dire, significativa. Tenga conto che 100 anni fa i nostri avi in Trentino Alto Adige davano i premi per catturare gli orsi, perché probabilmente in quell'epoca, che il territorio non era così urbanizzato, antropizzato, erano arrivati a un numero comunque eccessivo. Probabilmente ce n'erano molti di più e quindi aveva un valore, diciamo, la caccia all'orso, perché serviva a garantire un riequilibrio con la presenza umana, credo. Però oggi noi non siamo in queste condizioni, però noi dobbiamo porci il problema di tenere una presenza che sia, come dire, equilibrata rispetto anche alla presenza dell'uomo. Questo è l'obiettivo, per cui non è che i trentini sono contro la mamma orso, contro i cuccioli, ci mancherebbe altro, per noi è anche una bella promozione turistica avere la presenza di questo animale. Chiaro che la maggioranza, la giunta provinciale, ha comunicato senz'altro male e in maniera, come dire, non agli italiani, hanno pensato una cosa sbagliata rispetto a quello che sta venendo qua. Ci potrebbe essere stata, secondo lei, una ricaduta negativa sul turismo per via di questa comunicazione, perché si è letto anche questo, no? Che la gente non viene lì perché ha paura. Ma guardi, allora, se noi parliamo col 70% dei residenti delle valli del Trentino, non della città del Trento, non è che sono così favorevoli all'inserimento di questo orso, perché chi va nel bosco tutti i giorni o quasi, insomma, per fare la legna o per cercare funghi, ma parlo dei residenti trentini, prima ci andavano in maniera spontanea, adesso non stare un po' più attenti. I turisti, se chiedi ai turisti, sono tutti favorevoli l'80% alla presenza dell'animale. Quindi dobbiamo trovare, come dire, un equilibrio fra queste due esigenze, di chi vive nei boschi e di chi pensa che il bosco sia la casa solo degli orsi, ma è anche la casa degli esseri umani che nei paesini di montagna ci vivono e sono nei boschi tutti i giorni, capisci, o per tagliare a legno, per tagliare le piante, o perché hanno un rifugio, perché c'è un impianto di salita, o perché c'è un acquedotto da costruire o da ristrutturare. Questa è l'esigenza. Allora, il Trentino non è contro e per l'abbattimento di questo orso, no? Assolutamente questa non è l'ordinanza che ha fatto la maggioranza. Noi, che comunque è un orso, di che dimensioni parliamo? Che razza di orso insomma, è questa? Ha 18 anni, è stato uno dei primi orsi inseriti. Sì. Parliamo di un animale che, se te lo trovi di fronte in un bosco così, comunque tutte le esperienze che ci sono state di incontri passi qualche brutto minuto, questi anni non sono così piacevoli, e questo non ma è aggressivo l'osso? Ma in linea di principio, se non si se non ci si sofferma, se si sta alla larga, se si, ci si allontana, non è aggressivo. Però sai, quando ti arriva nell'orto di casa, ti ammazza le galline o le pecore, insomma non è che fa tanto piacere avere un orso nell'orto di casa per chi ci vive nei paesi di montagna. No, anche perché scacciarlo non è come scacciare una volpe, sicuramente è un pochino più un problema. Esattamente. E quindi adesso il problema è comunicare meglio, che non è stato fatto in questo frangente, e capire qual è la soluzione per proiettare questo progetto fra 10 anni, perché ogni anno gli orsi aumentano e quindi bisogna capire come fare con i territori vicini e con eventuali spostamenti di qualche esemplare. Ma lei allora, dove li sposterebbe eventualmente? Ma insomma, io penso che nell'est europeo, da dove provengono, ci sono spazi e boschi molto ampi. Ah, proprio lontano, cioè non nelle montagne vicine, nelle valli vicine, proprio all'estero, sì, un'esportazione di orsi. Non possiamo obbligare regioni vicine a noi o stati vicini a noi a accettare questi animali, se piuttosto di portarlo in Austria, che poi lo uccidono, è meglio riportarlo in Transilvania, se mi permette. Va bene, va bene, staremo a vedere, staremo a vedere. Intanto, insomma, non ci sono, come dire, intenzioni bellicose da parte di nessuno al momento per Danica. Grazie, buona serata. Bene, arrivederci. Giacomo Bezzi, buona serata. Borsa. Si può fare l'attualità anche d'estate. 800 24 00 24, cari ascoltatori, tra poco con i vostri interventi. Intanto l'avrete sentito anche nel giornale radio sicuramente, oggi prima riunione della FIGC targata Tavecchio e prima decisione che insomma, potrebbe anche sollevare qualche perplessità o qualche polemica, perché è stato, diciamo, eliminato la possibilità di squalificare le curve del tifo nelle squadre, negli stadi di Serie A e B, per discriminazione territoriale, cioè una cosa che era stata introdotta tempo fa e salutata secondo alcuni anche come un elemento di civiltà, no, che aveva portato anche alla chiusura di diverse curve per i cori offensivi sulla questione della discriminazione territoriale, cioè nord contro sud, sfottò sui napoletani eccetera. Adesso questa cosa è stata tolta. Tavecchio ha detto: l'abbiamo tolta per avere strumenti più ponderati. Non si sa bene che vuol dire. Sentiamo le parole che ha usato lui per giustificare questa decisione. L'abbiamo fatta per evitare che ci fossero provvedimenti drastici, per capirci, la chiusura delle curve immediate, trasferite invece sull'altra parte, dove prevedono una serie di ammende in prima istanza e successivamente con interventi più ponderati. Ora, se volete fare un'associazione tra la battuta sfondo razziale dei giocatori che mangiavano le banane e poi sono venuti a prendere il posto degli italiani in Italia e il fatto che si abbassa la guardia sulla discriminazione territoriale, fatela pure. 800 24 00 24. Gaetano da Napoli, buonasera. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Prego. Salve. Prima di tutto volevo dire, io sono un professionista del turismo. Sì. Io sono 30 anni che lavoro con i turisti sia negli Stati Uniti che in Italia. Cosa fa? La guida? Il tour operator? Sono accompagnatore turistico. Sì. E negli Stati Uniti avevo un ristorante, facevo il taxi, avevo una compagnia di taxi, quindi so che cosa vuol dire hospitality business. Il problema che io vedo in Italia, sì, è che purtroppo i politici sono troppo dentro a questa industria che sembra facile, perché tutti quanti dicono per portare i turisti in una certa località non ci vuole niente, quindi sembrando semplice porta voti. Mm-hmm. fare delle decisioni popolari non costa niente, mentre invece io parto dal presupposto che l'hospitality business o il turismo è un gioco di squadra dove tutti, e qui spezzo una lancia in favore di Sgarbi, sì, dove tutti fanno il loro dovere. Per esempio, per portarle un esempio stupidissimo, se io ho una nave crocieristica che arriva a porto di Napoli o in qualsiasi altro posto, sì, e subito questi turisti che escono dalla nave vedono lo sfacelo che c'è, non fa una buona pubblicità al posto, giusto? Ma bisogna mettergli gli occhiali scuri, cosa dobbiamo fare? No, ecco, il discorso è questo: il tour operator, il ristoratore, il barista e compagnia bella sono coloro che devono promuovere la città, sì, dal punto di vista turistico, mentre invece la politica l'unica cosa che dovrebbe fare, dovrebbe consentire, dovrebbe trattare l'infrastruttura, sì, pulizia. Ho capito, Gaetano, ma non, cioè, non ho capito una cosa in realtà. Se, per esempio, a proposito della frase che abbiamo fatto sentire di Sgarbi, se secondo lei c'è troppa politica e quindi per esempio un ministero del turismo sarebbe inutile, oppure se, come ha detto sempre lei che se ne intende, ci vuole coordinamento dei flussi, i turisti vanno portati nei posti giusti, nel modo giusto, eccetera, e il fatto che ogni regione proceda per conto suo, ogni città, ogni comune, ogni tour operator forse, in realtà non sia alla fine un handicap per i flussi del turismo in Italia. Ma è un handicap grandissimo. E adesso quindi il ministero secondo lei ci vuole? No. No. No. Se lei va per esempio a New York o a San Francisco o in, sì, altre città degli Stati Uniti, lei non si rivolge, lei non va al comune. E dove va? Lei va alla Camera di Commercio. Ma lei, scusi, lei però parla lei che è un operatore, cioè noi dobbiamo metterci nei panni del turista, non di chi come lei è l'operatore. Il turista vuole dei punti fermi, non è abituato ad andare al comune. Il turista straniero, purtroppo. Ma il turista straniero non gli frega nulla, compra un pacchetto, va. Il problema è come glielo offri, come glielo coordini questo pacchetto. È un altro discorso. Gaetano, vabbè, lei ha un'ottima pronuncia, tra l'altro, dell'americano. Ci dica ancora tour operator? Tour operator. Ci dica un'altra? I don't know. Non so, come ha detto prima, il business, il turismo di business. Yes, it's not tourism, it's hospitality. It's totally different. Ma lei è italiano o è americano? No, io sono italiano, sono napoletano. Poi è stato tanto in America perché ha preso proprio, sì, un accento forte, fantastico. Gaetano, grazie, sì, buona serata. Grazie a lei, arrivederla. Basta così. Marco da Ferrara, che succede? Mi fate cenni dalla regia. Marco da Ferrara, buonasera. Buonasera, senti, io chiedo a lei una riflessione, non potendo rivolgere direttamente la domanda a Pannella, all'onorevole Marco Pannella, sì, che ha detto quello che ha fatto, quella riflessione che ha detto prima sulle frasi di Battista e del Movimento 5 Stelle. Io vorrei sapere come fa uno come lui, che ha fatto decenni fa della libertà sessuale delle donne una bandiera, sì, a giustificare tramite, ad asseverare la frase di Battista e a giustificare quello che stanno facendo i terroristi dell'ISIS. Sì, però Marco, la fermo subito un attimo, poi la faccio andare avanti. Non faccia questa identificazione tra il discorso di cercare di capire le ragioni del terrorista e il fatto di essere d'accordo col terrorista, sono due cose diverse. Pannella non gliene frega nulla delle ragioni dei terroristi, probabilmente, perché non è certo d'accordo con l'ISIS, su questo è ovvio, però dice il dialogo, il filo del dialogo va mantenuto sempre, andava fatto con le Brigate Rosse, va fatto adesso con il terrorismo islamico, perché questo è quello che pensa lui, il dialogo come arma politica. Anche se stai, sì, dialogando con uno che la pensa diversamente da te, ha capito? Sì, ho capito, però diciamo che mi aspetterei da una sinistra che ha fatto appunto della libertà sessuale delle donne una bandiera, giustamente questo, della presa di posizione un po' più dura nei confronti di chi... Ho capito, Marco, però la invito a non fare la sommatoria, cioè capire le ragioni del terrorista non vuol dire dare ragione al terrorista, vuol dire cercare di capire come agisce, perché cosa ci può essere dietro, di fianco, non lo so, ma non vuol dire essere d'accordo, vuol dire rifiutarsi di avere una posizione manichea, di qua stanno i buoni, di là semplicemente stanno i cattivi. Questo è, poi non, ripeto, non coincide con l'essere d'accordo, perché non credo proprio che Pannella non lo sia. Francesco da Salerno, buonasera. Pronto, buonasera, chiamavo proprio in merito a questa discussione, sì, che c'è stata. Ma come si fa a dialogare con un fondamentalista che vuole imporre e quindi non vuole dialogare? Poi ci parla di Battista, di dialogo, quando lui in casa ha detto che i politici non si vogliono dialogare perché erano tutti... Cioè, è un po' confuso, voglio dire, rinnoviamo le classi politiche, ma le dichiarazioni infelici, la confusione resta sempre, questo volevo dire. Niente di che, penso che lui doveva capirlo, ecco, il fondamentalista vuole imporre, io sono abbastanza, per vicissitudini personali, conosco abbastanza da vicino queste persone che vengono qui, non vogliono integrarsi, ma vogliono imporre. Guardi, però, la loro logica. Bisogna sempre capire, Francesco. Bisogna sempre capire. No, le dico solo una cosa, poi la faccio proseguire. Bisogna sempre capire, perché questo fondamentalismo, questo ISIS, che a quello che ho capito io è nato in Siria, perché, perché c'era un regime, c'è ancora quello di Bashar al-Assad, molti occidentali, tra cui anche gli americani, erano contrari a questo regime, hanno finanziato, perché lo ritenevano opportuno, una opposizione, una rivolta, tra cui anche questi qua dell'ISIS. Quindi sono partiti non per imporre, ma per liberarsi, spalleggiati anche da una parte dell'Occidente, di questo regime. Appunto, perché sappiamo che loro sono stati aiutati dagli americani. Loro si sono travestiti un attimino all'inizio a dire sì, ok, non ti preoccupare, tranquillo, pace, amore, libertà. Poi nel momento in cui hanno un bel po' di risorse, questo sì, lo può chiedere anche al collega che si occupa di esteri, patrimonio stimato intorno ai 2 miliardi. Tutto quello che vuole lei, però al fondamentalismo c'è sempre qualcosa di prima. Non si può dire il fondamentalismo e chiudere lì, sono fondamentalisti e basta. No, ma io sono d'accordo, ma testimonianze sul posto hanno riferito che sono stati gli è stato detto o vi convertite o la morte, quindi questo vuol dire imporre. Che io li difendo, perché non è assolutamente questo. Sto dicendo semplicemente che sono abbastanza d'accordo, credo, con Di Battista, e credo che lui volesse dire questo, che le ragioni di un terrorista puoi cercare di capirlo, oppure puoi fregartene, fare una guerra come ha fatto l'America, poi ne fai un'altra ancora, e secondo me questo è sbagliato, e sono d'accordo con Di Battista, però non sono d'accordo con quelli dell'ISIS. Non lo so, se c'è spazio, va bene, loro vogliono il loro califfato, quindi insomma vogliono, ecco, dice lasciateci il nostro territorio, lasciateci in pace. Quindi le minoranze o si allineano o poi sono in posizione, se vogliamo. Quindi va bene, grazie. Di dialogo, grazie, buona serata. Buonasera. Daniele da Milano. Buonasera a tutti. Volevo ritornare un po' sui nostri territori, riagganciandomi al discorso che si faceva prima a proposito di questa orsa che ha avuto questo brutto incontro con l'essere umano. Io ho un problema che da anni cerco di affrontare, ma francamente vedo che nessuno lo affronta in maniera seria e risolutiva. Il problema dei cacciatori che in realtà aggrediscono nei territori privati, nelle aree private, dei cittadini e comunque dei turisti, insomma, ecco, che è ben più grave di questi sporadici episodi degli animali selvatici che attaccano gli uomini, insomma, ecco. Sì, prego. Non so se mi sono spiegato. Ma si è spiegato, Daniele. Adesso sentiamo cosa ne pensano gli ascoltatori. Si fa un cancan mediatico quando succedono questi episodi, che una volta è l'orso, una volta è qualcos'altro. E sembra che di qualcosa dobbiamo parlare, ha ragione. Sembra che le nostre montagne, le nostre campagne siano un pericolo. Però lei si è mai trovato di fronte a un orso? Io no, però credo che se uno trova di fronte a un orso qualche problema se lo fa, o a un lupo. No, però mi creda, di fronte ai cacciatori tantissime volte. Io sono un podista, faccio diversi chilometri nelle campagne, faccio diversi chilometri nelle montagne, e mi creda, dal 15 settembre diventa un incubo. Cosa? Scusi, diventa un incubo correre, diventa un incubo passeggiare in montagna, perché il 15 settembre parte la caccia. Sì, parte la caccia. Bisogna andare. Se queste persone, che spesso e volentieri sono persone anziane, ok, da lontano vedono qualcosa muoversi, perché deve mettere in contrapposizione questa questione della caccia con la questione dell'orso? Cose diverse. Lei vada a correre in mezzo alle montagne dove ci sono gli orsi, vedrà che cambia opinione. Ma non sono cose diverse, è un pericolo, visto che questo signore diceva. Ma per lei è un pericolo il cacciatore, per quelli che abitano le montagne del Trentino è un pericolo l'orso. Lo capisce questo? No, mi scusi, no, quanti sono i cacciatori in Italia che possono sparare? Non me ne frega nulla. Quando vogliono, sono 700.000, lei lo sa, evidentemente. Ma guardi che altre volte abbiamo parlato anche della caccia, lo capisce? Sì. Sono due argomenti diversi, non importa, Daniele, detto quello che doveva dire. Ma sono due argomenti diversi, a me non sembra proprio, a me sembra che bisogna mettere sul piatto della bilancia il vero e reale rischio che tutti gli anni... Dal 15 settembre le persone che godono delle campagne vada a correre in zone sicure. Grazie e buona serata. Adesso invece andiamo a vedere che fine ha fatto una notizia annunciata un po' di tempo fa. Siamo in provincia di Imperia, credo, in Liguria. L'iniziativa era l'ombrellone sociale. posso permettere. Come donno peli sulle gambe e le braccia e non me li posso permettere. Quando supero gli anta metto su panza, lascio i capelli sul pettine, vorrei provarci con te ma la faccia da rettile non me lo posso permettere. Pensioni come i senatori non me le posso permettere. Stasera niente cena fuori non me la posso permettere. E tra l'altro qui passano i mesi ma non ho riscosso per niente, man. Era meglio la Roma dei sette re di un futuro che fa bubu sette te. Non me lo posso permettere, non me lo posso permettere. Con un ISEE inferiore ai 15.000 euro si potrà accedere alle spiagge disponendo di un ombrellone e di una sdraio per chi appunto non se lo può permettere. Con questo titolo i giornali di qualche settimana fa all'inizio dell'estate salutavano l'iniziativa adottata a Taggia in provincia di Imperia. Noi salutiamo l'assessore Luca Napoli, buonasera. Buonasera, buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Una buona notizia, così insomma, diciamo un po' di ossigeno alle famiglie più in difficoltà per poter insomma andare al mare e risparmiare qualcosa. Anzi, in questo caso, quanto costava il vostro ombrellone sociale? Era gratis? Ma allora, per i nostri utenti, e quindi quando parlo di nostri parlo del comune di Taggia e sì, di tutto l'ATS, quindi del distretto sociosanitario della Valle Argentina, il costo è assolutamente nessuno, né per i cittadini, diciamo, non sì, utenti, sia per gli utenti, quindi il costo è zero, è assolutamente offerto dagli stabilimenti balneari armesi, con i quali ci sono diverse collaborazioni. Quindi noi abbiamo assolutamente aderito a questa loro proposta, perché sono loro che ci hanno proposto l'iniziativa e noi ben contenti di poterli pubblicizzare. Perché insomma sentiamo tante, diciamo, lamentele su come è andata la stagione turistica, le difficoltà, abbiamo sentito anche il sindaco di Forte dei Marmi prima, però insomma, a volte si ha la sensazione che anche i prezzi un po' elevati non aiutino a riempire gli stabilimenti balneari. Ormai siamo arrivati a dei livelli folli per cui viene voglia a volte di per chi non ha disponibilità di starsene a casa o di farsi un giro magari cercando un punto. Non ci sono le spiagge libere lì da voi, tra l'altro? Noi abbiamo ben tre spiagge comunali libere attrezzate e una spiaggia libera e una spiaggia per cani, quindi avete un'offerta. Sul nostro chilometro abbiamo un'offerta, diciamo, turistica ampia, a basso costo, ecco, chiamiamola low cost, abbastanza importante, ecco, però avete voluto aggiungere a questa ampia offerta perché insomma anche nella spiaggia libera probabilmente se uno vuole usare un ombrellone paga qualcosa se non se lo porta a casa. Sì, esatto, lì noi siamo stati interessati proprio per questo, perché ci rendiamo conto come servizi sociali che abbiamo delle famiglie che non sono nemmeno purtroppo in grado di potersi permettere magari la mezza giornata nella spiaggia pubblica comunale, senza quindi attrezzature, quindi comprare l'ombrellone per loro è diventato complicato, ecco, o comunque comprare magari 5-6 panini per i figli. Quindi cioè, questo, o si comprano, diciamo, i panini, circolazione, dice lei, o si compra l'ombrellone. Esatto, in questo caso siete arrivati voi con la vostra proposta. Ci dice però quante persone hanno usufruito alla fine di questa cosa? Allora, i numeri sono ovviamente ancora parziali perché siamo ancora in stagione, abbiamo ancora questi giorni e probabilmente ci sarà un prosieguo del progetto su settembre, visto che la disponibilità e le condizioni meteo di cui parlavate prima, che sembra che su settembre vadano addirittura un pochino a migliorare, quindi cercheremo di sfruttare questa stagione al massimo, anche diciamo, al limite dell'autunno. Per ora siamo, diciamo, a 20 domande, quindi 20 nuclei familiari che hanno aderito, più una eccezione che è una casa d'accoglienza che abbiamo sul nostro territorio che ha aderito con le mamme e i bambini, quindi abbiamo anche dei numeri, diciamo, che si vanno a spostare come richieste, ecco, perché non sono proprio i nuclei familiari, però sono gruppi mamma e bambino, ecco. Beh, insomma, 20 abbiamo famiglie a cui, diciamo, avete in qualche modo non credevamo, ecco, che ci potesse essere una risposta anche così, perché comunque capite bene che la difficoltà anche della famiglia è proprio di presentarsi al servizio sociale e dire non riesco a portare, cioè, di ammettere i miei figli che uno al mare, ha bisogno, quindi c'è sempre questo esatto. Questa interfaccia è sempre complicata, che quindi abbiamo anche superato, che non era una cosa così scontata, ecco. E quindi insomma siete soddisfatti? Beh, complimenti, sì, perché siamo soddisfatti, la risposta c'è stata. Io faccio ancora un complimento invece agli stabilimenti balneari, soprattutto perché parte tutto da loro e noi ci siamo solo tanto messi con la parte burocratica, ecco, quindi quello di gestire le domande e di fargli per quello che potevamo con pubblicità. E quindi io ringrazio loro in primis, perché in momenti, come dicevate prima anche col sindaco dei Forti dei Marmi, in momenti di difficoltà per la categoria, difficili, le tasse, sappiamo che gli sono arrivate delle bastonate dalla Tari e tutti gli annessi, si sono assolutamente adoperati per aiutare comunque il comune, quindi questa collaborazione è importante, speriamo che si possa riproporre i prossimi anni, ma anche con altre iniziative. Perché poi insomma uno viene lì, magari consuma qualcosa, mangia il gelato, mangia un panino. Esatto, e quindi c'è sempre un ritorno, anche piccolo, magari. Si dà uno stimolo, magari, però... sì. Com'è andata lì da voi la stagione? Un po' meglio che a Forte dei Marmi? Guardi, noi purtroppo abbiamo anche noi subito tantissimo il maltempo, abbiamo avuto quasi una ventina di giornate di pioggia, forse anche di più, e quindi è stata molto molto dura quest'anno, soprattutto perché erano i weekend, ha piovuto tantissimo nei weekend e poi in settimana un sole che spaccava le pietre, quindi questo purtroppo noi ormai siamo diventati un turismo mordi e fuggi per la vicinanza con Torino. Averci l'ombrellone gratis, io sarei venuto anche mentre pioveva, guardi. Esatto, per onorare la vostra iniziativa. Veniva, esatto, per la pioggia. Grazie, buona grazie serata. Grazie a lei, grazie per lo spazio e buona serata. E complimenti a Taggia in provincia di Imperia. Uno dice stamattina che faccio? Piove. Vado al mare lo stesso perché c'ho l'ombrellone gratis e non posso non approfittarne. 800 24 00 24, abbiamo Gianluca che chiama da Forlì, buonasera. Buonasera. Io chiamavo per Tavecchio, anche se ascoltando il cos'era di Teggia, di chi era il signore che parlava di Teggia? Era l'assessore. L'assessore non dice che, come dappertutto, io sono della Riviera Romagnola, sì, lo posso dire, fino a Pesaro, Urbino, Fano, Senigallia e via dicendo, non ho alcun problema a poter parlare di questo. Non ce n'è uno di stabilimento balneare che ti permette di, come si faceva una volta, avere l'accesso, andare avanti allo stabilimento, che c'erano 20 metri di spiaggia, diciamo, dove c'era il passeggio, dove c'era che potevi mettere il tuo telo tranquillamente. Ora sì, è off limits dentro ai stabilimenti. Però scusi, abbiamo parlato di un comune dove c'erano due spiagge libere, una spiaggia per i cani, hanno dato gli ombrelloni gratuiti a chi lo chiedeva, perché se la prende con questo povero assessore? Scusi, no, non ho capito. Perché sicuramente ha dato in cambio qualche cosa. Sicuramente ha dato in cambio stabilimenti balneari di non avere più in mezzo alle scatole. Ma questo lo dice lei, Gianluca, ha dato in cambio qualche cosa, certo, non lo so. Certo. Lei parli per Forlì e Cesena, della zona sua, non si preoccupi della Liguria. Ma in Romagna, le dico, è impossibile che lei possa avere accesso a uno stabilimento balneare, star davanti, fermarsi con due dicendo vengono subito a dirti o prende l'ombrellone e lettino qui davanti, non si può stare. Va bene, ha capito. Sì. Comunque io telefonavo per Tavecchio, è un chiarissimo segno dell'Italia che non cambia in tutto. Uh-huh. In tutto, una storia, personaggio conosciuto, vecchio, che non porterà niente di nuovo, anche lui avrà dato in cambio qualcosa ai tifosi per avere ora questa dichiarazione da poter dare. Boh, è il segno dell'Italia che non cambia in nulla. Va bene. Grazie Gianluca. Buona serata. Lorenzo dalla provincia di La Spezia. Buonasera. Prego. Mi sente? Ah sì, benissimo. Allora, anzitutto pro caccia per sempre. Non sono cacciatore, però sono assolutamente fuori dalla caccia. Non è cacciatore, però non abbiamo capito, scusi, non è cacciatore però? Però sono a favore della caccia, io personalmente, ricollegandomi a quell'altro ascoltatore che protestava sul fatto che quando va a correre rischia l'impallinata. Sì, beh, questo non è bello comunque, cioè adesso se la dice così bisogna... No, io trovo, guardi, ragionando per paradossi, camperei solamente a mangiare, ho un ritorno di voce fastidiosissimo tra l'altro. Abbassi la radio, non so se ci sta ascoltando. No, guardi, ho la radio tutta in macchina. Bravo. Per cui io non mi posso sentire se non col telefono. Quindi? Dicevo che praticamente io sarei a favore della caccia, nel senso che trovo che sia più naturale, normale e morale, se vogliamo metterla su sto piano, a mangiare semplicemente un coniglio ammazzato, cioè in mezzo alla campagna, una lepre, piuttosto che mangiare una vitella che è stata fatta nascere, fatta crescere e apposta per poi essere ammazzata. Va bene. Cioè, vabbè, a parte questo, io non avevo chiamato per questo. Comunque, ad ogni modo, volevo solo dirle, per quanto riguarda l'orsa, sì, slovena, che è stata importata, il ragionamento è semplice. Basta fare un ragionamento, cioè basta pensare a due possibilità. La prima è ripopolare i nostri boschi con animali, e allora c'è il rischio, anche per chi cerca un fungo, di prendersi una zampata a parte di un orso, e qua va bene. O se no non si importano gli animali, cioè nel senso non vedo dove sia il problema. No, il problema è proprio nel mezzo, Lorenzo, perché contrariamente a quello che dice lei, non c'è una dicotomia, non è che si sceglie di ripopolare, però poi succede che gli orsi vanno negli orti a mangiare le galline, e questo è un problema per chi ci abita. Quindi il problema è proprio nel mezzo, cioè tra i due estremi, non so se... No, sì. Ma io non sto parlando di stragi di bestiame, di cose così, io sto parlando semplicemente di una persona che va per i boschi, sì, in una zona dove ci sono delle bestie feroci, sì, perché, cioè, in certe condizioni, per carità, perché poi l'orso sicuramente... Cioè lei dice se l'è andata a cercare il cercatore di funghi per la... No. Allora non ho capito cosa voleva dire. Io dico semplicemente che nel momento in cui uno va in una zona che è popolata da questi animali, può poter mettere in conto che gli possa succedere una cosa del genere. Sì, sì, no, ma questo è evidente. Vuole, se poi sì, uno non vuole ripopolare, non vuole parlare di ripopolamento di boschi, benissimo, non si faccia. Sì, però ma lei non ha capito una cosa, glielo ridico, poi basta, perché è solo lei che non ha capito, forse gli altri ascoltatori hanno capito. Il problema non è solo che chi è andato nel bosco è andato a casa dell'orso, è che l'orso va in giro, ce ne sono una cinquantina da quelle parti, e vanno anche negli orti a mangiare le galline, eccetera eccetera, perché a furia di ripopolare adesso insomma comincia ad esserci una piccola popolazione per l'appunto di orsi, e questo può essere un problema in una zona abitata. Niente, è questa la questione, sa, poi che il cercatore di funghi diciamo sia stato incauto, questo può anche darsi. Rodolfo da Vercelli, buonasera. Niente, volevo fare solo un commento alla telefonata che c'è stata un'ora fa da parte del sindaco di Forte dei Marmi. Telefonata che mi è sembrata anacronistica, anche se capisco che un sindaco deve fare, sì, il comune praticamente in cui opera. Perché anacronistica? Anacronistica per un semplice fatto: io ho 58 anni e sicuramente quando andavo a scuola anch'io, sì, la scuola terminava quasi ufficialmente il 31 maggio e ricominciava il 1 ottobre. Però in realtà la situazione sociale è molto differente, perché in 4 mesi all'epoca le madri riuscivano ad assistere i figli, soprattutto quelli in età di scuole elementari, mentre adesso anche le donne lavorano, per cui più si allarga, diciamo, il problema della durata delle vacanze scolastiche è un problema anche legato al fatto di dove si lasciano i figli quando in quei 3 mesi in cui i figli sono a casa da scuola, giusto? È chiaro, questo al sindaco di Forte dei Marmi non gliene frega poco o nulla, il suo obiettivo è un altro, e lei ha ragione a porre questa questione, ma è ovvio che ci sono una serie di questioni, no? Che sono forse anche più importanti della non semplice stagione balneare. Però tant'è, questa era la proposta. Se il ministro Giannini si è sentita di rispondere, evidentemente un tema c'era. Abbiamo i titoli del TG1. Palazzo Chigi, su debito nessuna trattativa con Bruxelles, rispetteremo i vincoli senza aumentare le tasse, la crescita è un problema europeo. Cartelle Equitalia, sono quasi 2 milioni i contribuenti che le pagano a rate, boom di tasse per le imprese. Scontri a St. Louis, arrestate la gente che sparò mio figlio, chiede la madre, l'autopsia conferma, colpito 6 volte. Ancona, piantonato in ospedale, non parla l'uomo che ha ucciso la figlia di 18 mesi, la madre al TG1 era triste e piangeva sempre. Naufragio in Indonesia, 2 italiani tra le persone tratte in salvo dopo 2 giorni in balia delle onde, si cercano altri dispersi. Ogni cliente ha diritto di chiedere il cosiddetto doggy bag, il cibo avanzato al ristorante, lo ha stabilito la Cassazione. Federcalcio, stasera la firma di Conte come nuovo CT della Nazionale, ancora medaglia agli europei di nuoto, d'Arrigo argento nei 400 stile libero, bronzo per la staffetta femminile con la Pellegrini e quella maschile con Magnini. Si può fare l'attualità anche d'estate. Eccoci qua, 800 24 00 24, con Giovanni che ci chiama da Milano. No, non ce l'abbiamo più Giovanni. Sì, ce l'abbiamo. Giovanni, buonasera. Buonasera Maurizio. Eccoci qua. Intanto volevo cominciare ringraziandola perché è ritornata ancora quest'anno. Io sono tornato ad ascoltare in quest'ora Radio 24 e quindi la pregherei di rimanere perché mi farebbe felice. Per venire all'argomento, sì. Non è che per far felice lei poi faccio scontento tutti quegli altri. No, ma penso che sono più quelli come me che saranno felici, sicuramente. Va bene, va bene. Va bene. Grazie. Prego. Io le telefonavo e le faccio un altro complimento. Sì. La storia di Battista, lei è l'unico, mi risulta dall'indagine che ho fatto io ascoltando tutti i TG così, che ha dato un'informazione corretta, ha letto cosa ha detto. Perché tutti hanno portato le dichiarazioni dei politici, politici corrotti, politici interessati, politici come Salvini, che è meglio che non parlano, che si preoccupano del loro partito e dei guai che hanno loro, perché questo signore, se fosse per lui, ucciderebbe tutti i clandestini così, quindi... Lei ha dato un'informazione corretta, ha letto cosa veramente ha detto questa persona. Pensi un po', è bastato questo per farla contento. No, è vero, no, sì, ho letto. Perché io ho ascoltato così, non avevo capito questa cosa. Poi sono andato a sentirmi il pannello, finalmente ho capito l'informazione, perché non è passato che quello lì era un delinquente che stava con i terroristi. E io ero rimasto un po' perplesso, cioè mi sembrava. E io la ringrazio proprio per questo, perché... Mi scusi, ma abbiamo una classe di giornalisti che non fa il suo mestiere, perché il mestiere è quello di informare, non di fare, di riportare le dichiarazioni del politico di turno che si fa pubblicità in malafede, chiaramente, a scapito degli altri. Tu dai l'informazione, poi dici questo è il commento. Vabbè, mettiamola così, la differenza che c'è tra il titolo e l'articolo. Nel titolo si fa la semplificazione, per cui si dice frase shock di Battista, poi nell'articolo bisogna spiegare un po' meglio. Noi qui abbiamo 2 ore e mezza di sera di tempo ogni sera. Sì, quindi... però nei TG è così, anche nel vostro non passa questa notizia, passano le 2 dichiarazioni e quello lì è il delinquente di turno, il grillino delinquente che ha fatto la dichiarazione demenziale, e non è vero. Cioè questa è veramente disinformazione. Comunque nel merito della questione lei dà ragione a Di Battista, cioè, nel merito della questione sì. Do ragione perché lui fa un ragionamento logico. Io sposo in pieno la tesi di Pannella ai tempi che furono delle Brigate Rosse, sì. Ma anche per questo del rapimento Moro io stavo dalla parte di quelli che volevano il dialogo, perché è sempre comunque positivo cercare di capire i problemi degli altri e di trovare un modo di vivere, perché se andiamo a bombardare basta, guarda, gli americani cosa hanno fatto? Hanno distrutto la Libia, l'Iraq e così, hanno creato dei delinquenti perché si sono creati loro, dopodiché sono andati addosso, cioè partiamo da Bin Laden, chi aveva creato Bin Laden? Gli americani per andare contro i russi, con Saddam lo stesso, adesso qui i curdi cosa facciamo? Andiamo ad armarli, dopodiché i curdi si rivolteranno e saremo ancora lì. Cioè, qui bisogna capire che il mondo non si salva con le guerre, si salva ragionando e innanzitutto Bravo, si salva avendo la capacità di comprendere, cercare di mettere, cioè qualcuno deve ognuno deve sacrificare un po'. Perché se no non ne veniamo più. Grazie a Giovanni, grazie. Grazie a lei, arrivederci. Buona serata. Mi raccomando, rimanga. Io rimango, poi se mi butteranno fuori verrò a casa sua. Enrico da Brindisi, buonasera. Buonasera, io ho ascoltato prima il sindaco di Forte dei Marmi, sì. E altri interventi, parlare diciamo di turismo, di una sorgente turistica che dura 4 mesi, quindi sentendo tutti questi interventi dalla Riviera Romagnola, insomma mi è venuto da ridere un po', no? Noi qui al sud, io chiamo dalla Puglia, noi abbiamo turismo per 9 mesi, potremmo avere turismo per 9 mesi su 12 all'anno, abbiamo sole da marzo fino a novembre, è una cosa spettacolare. Allora sentire che nessuno ne parla, no? Tranne le riviste specializzate straniere, per esempio il National Geographic ha citato la Puglia come la regione più bella al mondo, e quindi malgrado non abbiamo aeroporti, non abbiamo l'alta velocità ferroviaria, non abbiamo autostrade, perché lo Stato italiano ci ha privato tutto, ci ha messo i rifiuti tossici, nonostante tutto ci ha messo le trivelle che stanno distruggendo una parte dei fondali. ci vuole mettere il gasdotto della Tato, malgrado tutto, malgrado l'Ilva, siamo ancora la regione più bella del mondo. Quindi questo ci basta e ci fa sorridere molto. E passiamo, sì, passiamo sopra tutte queste storie che l'Italia insomma ci snobba come tutti diciamo gli esperti del settore. E qual è il segreto della Puglia secondo lei? Abbiamo sole per 9 mesi su 12 all'anno. Ascolti un attimo, qual è il segreto della Puglia a questo punto, ce lo dica? Il segreto della Puglia è il sole. Infatti abbiamo una quantità di sole, questa è una cosa, è un dato. Non c'è solo in Puglia, c'è anche altrove, va bene poi? Sì, noi abbiamo il sole, abbiamo il clima che è temperato, e se lì vede sulla fascia, su questa fascia diciamo del tutto il mondo, della terra, no? Lì non troverà un'area geografica così diciamo occidentalizzata, così, ma con questo bel clima, con questo clima. Ma com'è andata la stagione? Lei che lavoro fa? Io sono un bancario per forza, perché dovrei fare l'informatico, sono andato all'informatica, però purtroppo grazie alle politiche dei vari governi che ci hanno costretto a uno stato di colonizzazione mi devo adattare. Non ho capito, lei vorrebbe fare l'informatico ma per colpa del governo fa il bancario, non ho capito. Assolutamente, perché a me non mi va di spostarmi, di traventare la mia famiglia che per secoli ha vissuto al sud, l'idea di dove mi sposta. Guardi che io faccio 300-400 km al giorno per lavoro, a me non interessa lavorare a girarsi dalla mamma, come ci sentiamo dire da molti opinionisti nazionali, no? Vabbè, comunque lei fa un lavoro. No, volevo dire solo questo, però l'idea di trapiantare la mia famiglia e farla diventare milanese mi ha sempre sconvolto. Quindi io sì, assolutamente. Guarda, non abbiamo niente che faccia paura qui a Milano, stia tranquillo, anche se dovesse succedere. Guardi, io non ce l'ho con la gente di Milano, con i questo l'ho capito. Con tutti quegli opinionisti che hanno creato questi falsi luoghi comuni, che hanno imbottito anche la gente del Quali nord, luoghi comuni? Luoghi comuni, il debito pubblico, parliamo del debito pubblico, il Sole 24 Ore ha scritto un paio di anni fa il padre del debito pubblico del Nord Italia, purtroppo lo scrivono una volta. Vabbè Enrico, io però volevo chiedere un'altra cosa, volevo chiederle come è andata la stagione turistica lì in Puglia, che lei sappia. La stagione turistica, malgrado tutto, tutte le varie handicap, è andata abbastanza bene. Finalmente qualcuno che non si lamenta su come è andata. Grazie, con questa notizia ci salutiamo Enrico, buona serata. Grazie. Allora, Umberto da Gorizia. Buonasera. Sono un over 70, con ciò di cose ne ho viste nel mondo tante, no? Io mi faccio riferimento, è la mia opinione, non la mia ragione, Mi faccio riferimento, ho letto un libro recentemente di Sergio Romano, ex ambasciatore a Mosca, che parla del declino dell'America. Non so se lei l'ha letto. No, non l'ho letto. Ma io voglio dire questo. Ci faccia l'ultima di copertina, sa la sintesi in 30 secondi? No, non ce l'ho. Volevo dire, Sergio Romano dei Guardanti. Sì. Allora volevo dire, l'America c'ha le mani dappertutto. La crisi economica che noi abbiamo è derivata che hanno fatto libero commercio, libero mercato. I prodotti che vengono dall'Estremo Oriente costano in teoria la manodopera un'ora all'ora, lei costa di più e noi non lavoriamo più. Allora ha messo le mani dappertutto. È come per dire, noi siamo i padroni, facciamo quello che vogliamo, ma non possono fare così. Se abbiamo problemi con le nazioni, c'è l'ONU. L'America deve solo dare un contributo se l'ONU glielo chiede, non deve fare da padrona dappertutto. Ma io mi ripeto, economicamente siamo in crisi, perché mi ricordo c'era Rus, che ha fatto il WTO, libero commercio, libero mercato. Da quella volta io sto sul confine con l'Est Europa, la Slovenia, Gorizia, e tutto il mondo è cambiato in peggio, e io penso che il zampino negativo è degli americani. Va bene Umberto, grazie, buona serata. È il momento di ritrovare Rossano Ercolini. Ciao Rossano. Buonasera, tutto bene? Tutto bene, siamo sopravvissuti anche al weekend di Ferragosto. Forza. Rossano Ercolini, maestro di Capannoli, presidente di Zero Waste Europa, per parlarci questa sera, visto che stiamo parlando di località di turismo, ci porti anche ad Amsterdam, tra le varie cose. Sì, diciamo che abbiamo l'altra sera già toccato l'importanza del riuso nella strategia di Rio di Zero, ma adesso c'è una febbre che sta contagiando, è partita da Amsterdam, che è quella dei repair café, cioè luoghi di incontro dove si riparano gli oggetti, a cui affettuosamente siamo legati, oppure perché non ci rassegniamo a tirarli via. E l'idea partì nel 2009 da una giornalista in pensione e ha avuto successo. Chi era costei? Questa mi sembra che si chiami Martina Posma. Una giornalista in pensione olandese. Olandese, che interessata alla sostenibilità, si chiedeva che cosa potevano fare a partire da lei le persone comuni, sì, per aderirvi. E bella domanda, perché in effetti non basta andare, cioè, anzi non serve assolutamente andare a incontri, dibattiti, conferenze, contano le cose che effettivamente si possono fare, e lei decise di aprire questo progetto prendendo in affitto un foyer di un teatro dismesso e invitando la gente comune a riparare i propri oggetti. Ha avuto un finanziamento dal governo olandese, ha acquistato dei semplici strumenti di riparazione, per cui questi strumenti di riparazione sono, diciamo, cogestiti dalle persone che vengono. Ma che tipo di oggetti, che tipo di strumenti, di cosa stiamo parlando? Beh, i più popolari, diciamo, sono i mobili, gli elettrodomestici, i giocattoli, sì, questi un po', le biciclette che ritroviamo sempre anche quando parliamo di usato. Un tempo la bicicletta si riparava mille volte sicuramente, ora non fai più in tempo perché te la fregano prima, almeno a Milano. Beh, questo diciamo introduce altri argomenti, altro inconveniente, che sono la sicurezza un po', però diciamo che questa idea, questo contagio di cominciare a prendere coscienza della insostenibilità dell'usa e getta sta avvicinandosi proprio alla moda, perché non sono persone necessariamente povere quelle che frequentano questi repair caffè, che tra l'altro da Amsterdam si sono diffusi in tutta Europa, a Berlino, a Parigi, in Austria, adesso in California. Diciamo, chi vuole aprire un repair caffè non ha altro che andare su un sito, su internet, mi sembra repaircaffè.org, e lì ti danno tutte le coordinate per fare anche tu a casa tua, a Milano, come del resto io vorrei fare a Capannori, come aprire un repair caffè. E ovviamente, diciamo, è un altro tassello in quella branca della riparazione e riuso che dicevamo nell'altra trasmissione, non è per sfigati. Sì, certamente aiuta anche nell'ambito di una solidarietà sociale che fronteggia sempre più problemi, la scarsità di beni primari, magari ti manca la camera, magari ti manca la cucina, ma comincia a far moda, perché intanto le persone che tengono aperto questo repair caffè sono persone esperte, in genere persone andate in pensione, che sono elettrotecnici o che sono semplici esperti in bricolage, che ti danno una mano. Quando tu vai hai gli strumenti, se non ce la fai da solo ci sono queste persone volontarie. Assolutamente questa iniziativa non è a fini di lucro e quindi rientra, è un tassello del progetto, certo, più generale della riparazione e riuso, che come dicevamo l'altra sera deve poter essere anche occasione di piccola impresa locale. In questo caso è un luogo di formazione dove, per esempio, le persone anziane, che in genere vengono tra virgolette buttate via con le loro competenze, perché oggi tutti sappiamo di informatica ma non sappiamo come si ripara una bicicletta o un frigorifero, sono lì che ti danno una mano e che ti insegnano anche a te più giovane a assumere delle abilità che magari nessuno ti o darà. Anche Rossano, semplicemente ora a me è venuto in mente, a me quest'estate mi si è rotto il televisore e mi sarebbe stato utile un repair caffè, non so se sarei riuscito ad aggiustarlo o ci volevano i tecnici della Samsung, però anche semplicemente aggiustarsi un paio di pantaloni strappati, chi sa fare più una cosa del genere? Nessuno. Devi andare al negozio, o hai ancora una nonna o una mamma dalle mani sapienti, oppure andare al negozio e spendere magari 5 euro. Invece è una cosa che si può imparare a fare, è un modo per risparmiare e dare una nuova vita anche, no, agli oggetti, divertendosi. Ma in Italia come siamo a Repair Café? Ce ne stanno? No. Diciamo, la filiera della riparazione e riuso, soprattutto del mercatino, sì, dell'usato, è vastissima, è in crescita, come la descrivemmo. Però questa del Repair Café, che è un filone complementare ma anche un pochino diverso, deve ancora svilupparsi. In Italia non ci sono, non neanche nelle grandi città, nemmeno emulando Amsterdam. Apriamolo noi, Rossano, un Repair Café. Anche perché partiamo. Tu sei ancora un maestro in attività, io pure un giornalista, però prima o poi andremo in pensione, qualcosa dovremmo fare. Allora ci sentiamo, ci telefoneremo quando siamo. Quando sarà il momento. Spero tra poco, almeno io, tu. A me manca ancora un po'. Sei molto più giovane. Viene anche Fabio, magari... ha detto, viene anche Fabio il regista, ha detto viene anche lui. A noi ci manca ancora un po' alla pensione, però cioè, bisogna cominciare a pensarci, Rossano. Allora pensate a promuovere trasmissioni interessanti come questa, che servono davvero a insegnare, a formare l'opinione pubblica. Grazie Rossano Ercolini, alla prossima, ciao, buona serata, ciao, buona estate, ciao. A voi, ciao. Traffico. Strade in diretta. Buonasera, c'è un chilometro di coda da smaltire alle porte di Roma sull'Autosole, tra la 24 Roma Teramo e l'innesto per la diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Sono le ripercussioni di un incidente risolto. È bloccata invece la circolazione in provincia di Grosseto in questo momento sulla statale Aurelia. Siamo tra Albinia e lo svincolo di Orbetello in direzione di Roma. Anche qui si è verificato un incidente, il traffico è al momento fermo. Noi torniamo tra un'ora. Si può fare, si può prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare l'attualità, anche d'estate. Abbiamo Massimo che ci chiama da Firenze, buonasera. Sì, buonasera. Senta, prima in macchina ho sentito un po' parzialmente l'intervento del sindaco di Fortevenardi, sì, e diciamo volevo dire un paio di cose per esperienza un po' personale. Insomma, i prezzi di cui parlava il sindaco, sinceramente, per ciò che riguarda un po' la Versilia, sono totalmente diversi. Sono più alti, cioè, quelli che conosce molto lei. Più alti, cioè anche tra virgolette in bassa, allora, stagione, sì, o inizio giugno, quando magari una nonna porta il nipotino al mare per 15 sì, giorni, ovunque lei va, meno di 30 euro, 35 euro al giorno per un ombrellone e due lettini lo spende. Lui aveva detto 15 euro al giorno, però in effetti 15 euro al giorno forse in Versilia 30 anni fa, ma a passà aveva detto anche gli stabilimenti pubblici. Poi, è una situazione totalmente, completamente diversa. Quindi diciamo mediamente sono 30 euro al giorno. Mediamente sono 30 euro al giorno, per non parlare diciamo dal 20 di luglio fino a tutto il mese di agosto, dove in tanti bagni si chiedono le 50, 60, 70 cioè euro 900 al euro al mese, salvo sconti diciamo comitive o sconti per forme di abbonamento diciamo. Esatto, per magari un periodo stagionale, ma minimo le cifre sono di 30 euro al giorno. Hai voglia te a tenere chiuse le scuole con 900 euro al mese? Esatto, non riempirei diciamo mai questo, no? si può cercare di fare di tutto per allungare le stagioni, però insomma se i prezzi poi sono questi, solamente per avere un ombrellone e un lettino o due lettini, è chiaro. Lei dove è andato in vacanza, Massimo? Io quest'anno sono andato in Grecia, proprio anche per motivi diciamo anche economici sostanzialmente, e ho riscontrato già un paio di volte che mi capita di andare in Grecia, ho riscontrato che effettivamente i servizi sono paragonabili ai nostri e i prezzi sono totalmente diversi. Cioè speso 900 euro tutto compreso, lo so adesso, esatto, forse anche meno per 15 giorni, sì, forse per 15 giorni anche meno, però ecco, io capisco anche le esigenze che hanno chiaramente gli albergatori e tutti quelli che lavorano sulla costa, però per allungare le stagioni bisogna chiaramente anche andare incontro alle esigenze anche di chi può spendere. Giustamente lei faceva riferimento, come anche il sindaco, alle persone anziane, ma le persone anziane molto spesso, anche quelli che sono in pensione, magari sono in pensione da 10-15 anni, hanno la pensione di 15 anni fa e magari pagare 35 euro al giorno per un lettino, un ombrellone, non si può difficile. Fare, non si può fare, va bene, esatto, grazie Massimo, non si può fare. Buona serata. Giulia dalla provincia di Pordenone, prego. Sono qui, io volevo fare un intervento riferito alla a quanto ha riferito quel signore di prima dell'iniziativa commerciale o comunque no profit di riutilizzare, sì, le cose, di riaggiustarle. A me sembra che stiamo tornando come giustamente si dovrebbe essere nel passato. Io avevo mio nonno che teneva tutti i chiodini, anche quelli storti, li raddrizzava per utilizzarli ed aggiustava qualsiasi cosa si rompesse in casa, e noi l'abbiamo sempre visto. Negli anni Ottanta questo sembrava tanto strano perché bisognava ricomprare tutto nuovo, ma io ho sempre è visto. È tornato che... di moda, adesso è tornato di moda. No, non è una moda, a parte che diventa una necessità perché le risorse diventano limitate e quindi non si può continuare a comprare all'infinito, ma poi anche. Lei cosa aggiusta? Ha imparato qualcosa dal suo nonno? C'ha qualcosa, sì, che riutilizza? Ma in genere, a dire la verità, io mi riempio di in casa di cose che penso di poter utilizzare e poi non trovo mai l'occasione. Cioè, di quelle che non butta via nulla, c'ha la casa piena di roba? No, perché non così. C'è anche quel tipo lì, No, non così, però diciamo che io rammendo le cose che si rompono, cerco di aggiustare le cose che so aggiustare, ma altrimenti cerco di farle riparare, ecco, non le compro nuove. Se si può, altrimenti va bene. Si procede. Va bene, Giulia, grazie, buona serata. Buona serata. Andiamo con Vittorio che ci chiama da Cremona, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, guardi, io appunto la ringrazio per avermi chiamato. Io ho sentito gli interventi anche in questi giorni riguardo il discorso degli animali, parecchie cose interessanti. Volevo dire questo, ma se noi andiamo a guardare gli annali delle cronache si vedrà che veramente l'orso italiano in realtà non aggredisce le persone, se non è il grizzly americano. L'orso italiano è proprio un orso generalmente che non è pericoloso per le persone. Viceversa, ecco, quello della caccia è un problema enorme perché, a parte i milioni di animali che vengono massacrati, no, per divertimento dei cacciatori, però ci sono due dei bollettini che sono pubblicati, che si possono consultare. Alla fine di ogni stagione venatoria ci sono decine di morti e di feriti. Per lo più sono cacciatori e a me personalmente dispiace. Dispiace anche per si sparano tra di loro, sì, sì, è vero. Si sparano tra di loro, ma guardi, le dico una cosa, proprio quel signore che diceva di essere per la caccia e diceva ma se uno va a funghi trova l'orso, no, non è che trovi l'orso. C'era un signore di 90 anni, qualche anno fa, si immagini un po', una persona di 90 anni, una signora, stava raccogliendo dei funghi, un cacciatore ha sparato e l'ha ammazzata, perché poi il discorso è, bisognerebbe capire, com'è possibile che a tanti cacciatori... Cioè si verificano questi incidenti tipo battuta di caccia, ammazza il micro, lo scambiamo per un cinghiale, ma voglio dire tra un cinghiale e un uomo c'è una bella differenza, allora bisognerebbe chiedersi perché... Guardi, quello degli incidenti di caccia è un problema sicuramente, sì, che c'è, però questo non vuol dire che la caccia sia tutta sbagliata. O che no. Perché la caccia è utile, per esempio, anche ne parli con i contadini che hanno dei campi coltivati, e se non ci fossero un po' di cacciatori gli animali andrebbero a mangiarsi tutto raccolto, anche questo. Considera una cosa, sì? Nel senso, la verità è che l'unico animale che può essere dannoso, no, questo lo dicono gli scienziati, non è che lo dico io, quando è il sovrannumero è il cinghiale, no? Gli altri animali non sono dannosi, cioè dipende dall'agricoltura in sé, voglio dire, molto spesso ci sono delle specie che non sono dannose, poi i cacciatori trovano un pretesto per poter aumentare il numero delle specie cacciabili, però se noi andiamo a vedere ci sono alcuni dati su cui riflettere, il 74% degli italiani, questo è un dato che rimane invariato nel tempo. È caduta la linea, andiamo allora con Carlo che ci chiama da Brescia, buonasera. Sì, buonasera signor Alessio, dottor Alessio. Io volevo dire che il sindaco di Capannori... Non è il sindaco, è semplicemente un maestro di scuola elementare, lo sanno, è quello di Capannori. Ha ragione. Però purtroppo in Italia, io sono un artigiano, sì, ci sono normative tali, dalla 626 discorrendo, che non permettono, a mio giudizio sindacabile, sì, fare una cosa del genere, perché io non posso allestire un posto dove la gente viene, usa il trapano, usa il martello, se si fa male non si può fare niente in Italia, purtroppo. Secondo me, se è vero quello che dice lei, è possibile quello che dice lei. Secondo me è una cosa che in Italia non si può fare. Che lavoro fa, scusi? Carrozziere, quindi diciamo di riparazione se ne intende. Se ne intendo di corsi di 626, di fortunistica, di pronto soccorso, di primo soccorso e via discorrendo. Le dico, secondo me, ma non è un giudizio. Però scusi, se ci mettiamo io e lei dentro casa sua con un trapano ad utilizzarlo, non ci può dire niente nessuno, no? Sì, ma siccome è una cosa, secondo quel che ha detto siamo in un bar, è un locale pubblico. È un locale pubblico, quindi deve sottostare a certe regole, e quindi per me non è attuabile in Italia con le normative vigenti ora. È possibile quello che dici lei, in Italia? Per me, ho i miei dubbi, perché io ho fuori il cartello, con vietato l'accesso, ho la catena, ho dei pilastrini con le catene per cui i clienti entrano in ufficio ma non possono entrare in ufficio. Va bene, Carlo, abbiamo capito, approfondiremo però, con Ercolini, che su queste cose è uno che fa sul serio, si documenta. Ecco, però, e quindi è una cosa intelligente quella, sì, lì, però in Italia purtroppo per me abbiamo non capito. Si grazie, può fare. Grazie di sera. Nuovo. Vabbè, insomma, speriamo che non sia così, ma ha ragione l'ascoltatore, vale la pena approfondire. Ercolini, se sei ancora all'ascolto, questa cosa qua la prossima volta ce la devi spiegare in qualche modo. Pietro da Bologna, buonasera. Buonasera, mi sente? Forte e chiaro. Benissimo, innanzitutto io si chiamo da Bologna ma sono sardo, quindi volevo anche salutare l'amico della Puglia e dire che confermo che la Puglia è una regione bellissima. Ma qui, senza tema di essere smentito, non penso che la Sardegna sia feconda. È bello questo derby che scatta ogni volta tra regioni italiane. Saluto la Puglia perché è una regione bellissima, sì. Però quando sento dire che è la più bella del mondo, ecco, mi fermo un attimo e ci pensiamo. Volevo solo dire questo, rubando solo 10 secondi. Noi abbiamo un problema serio in Sardegna, che è il costo dei biglietti del traghetto. Cioè, si parla tanto della possibilità di incrementare il turismo, ma ci sono delle famiglie che partono da Livorno, da Civitavecchia, che spendono luglio e agosto almeno il doppio, cioè dalle 500 euro in su. Qui si è creato un cartello tra le varie compagnie di navigazione e io mi chiedo dove sono tutti questi uffici di authorities contro i cartelli. Pietro, capiamo benissimo la sua domanda, anzi la ringraziamo per questo, la lasciamo nell'etere, la riprendiamo domani perché ci dobbiamo fermare qua. Buona serata a tutti da me, Alessio Maurizio, ma anche dalla redazione, Camilla Tomadini, Lorenzo Nespoli, Andrea Piana, Lucia Tolve e anche da Fabio Cantadori regia. Ciao, domani buona serata, ciao.